più affettuoso e sentito augurio per la prima puntata dell'emissione La Zanzara, prestigioso programma radiofonico in onda su Radio 24. Unitamente alla signora Clio, tengo con viva partecipazione a formulare più affettuoso bocca al lupo ai conduttori Cruciani e Parenzo per l'attività intensa di informazione e commento che vanno ad iniziare. La Zanzara forte spara, con Cruciani e con Parenzo dico solo quel che penso, con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. La Zanzara. Tutto il resto è no. Gioia. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Io di colpe ne ho una sola, di non essere riuscito mai a convincere gli italiani a darmi il 51% dei voti. Questa è l'unica colpa che ho, per tutto il resto ho sempre lavorato bene. Se senti come ho fatto la beatificazione, la santificazione diretta, che vogliamo fare? Dice che io sono matto, è vero, abruzzese, però matto pure lui, non scherzo. E non sbagliamo. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Per questo io voglio ancora bene, infatti dico sempre Silvio. E quindi hai visto, Silvio Travaglio? Hai visto? E poi il gesto dell'ombrello, in due fanno 160 anni o cose di questo tipo, Pannella e Berlusconi, in due fanno quasi 160 anni, 160 anni, Berlusconi si è aggrappato pure a Pannella, si è aggrappato anche a Pannella, probabilmente si era dimenticato anche l'esistenza, signor Parenzo, si era dimenticato l'esistenza di Pannella, ha detto buonasera, ma che sono sti referendum, che proviamo pure con questi, cioè ha detto dove sta Pannella, non lo vedo da 20 anni, che si è fatto la coda lunga, ha firmato tutto, tutti quelli che hanno votato, quelli del PDL, pure quelli sulla droga, pure quelli sulla droga. Tutti lo ha fattuto perché si è presentato lì con quel dato. Buonasera a tutti, buonasera a lei, buonasera a Barisoni, buonasera a Napoletano, buonasera a Verdini, buonasera a Ciccitto, buonasera a Gasparri, grandi amici di questa trasmissione che si chiama La Zanzara, questo caravanserraglio che riprende. Vabbè, sei troppo lungo, allora? Beh, io l'immagine più bella era Pannella che gli fumava il sigaro addosso al signor Berlusconi, quelle immagini, voglio buttare lui tutto schifato che firmava queste cose senza sapere che cosa stesse firmando, una cosa pazzesca. E poi il mitico Pannella con Tiè a Marco Travaglio, poi che c'entra Travaglio? Poi Travaglio è a favore e contro l'amnistia. Io pure sono contro l'amnistia. No, ma è perché l'ha fottuto. Cioè, in che senso l'ha fottuto? No, perché c'aveva Berlusconi lì, perché? Perché c'ho Berlusconi e t'ho fottuto sulla giustizia radicale. Ma che ha fottuto? Ma che ha fottuto? T'ho fottuto. Ma i referendum non contano più un cazzo, non servono più a nulla i referendum. Come? Basta, ma è un istituto finito, morto. L'hanno ammazzato i radicali che ne facevano a tonnellate. Ma è un istituto morto, finito. Domani il signor Brunetta andrà a firmare anche lui, mi sono arrivati dei comunicati sul telefonino e denunzio, se ne mandano ancora comunicati di Brunetta, io denunzio alla procura, cioè, mi è arrivato un comunicato con tre croci ansa, come fosse una notizia clamorosa, domani Brunetta firmerà i 12 referendum, chi se ne frega? Ti puoi fidare. Io devo dire tanti saluti a Marco, Marco che ci sono tanti marchi e tante marchette, e a Marco Travaglio, Marco scusa è una ditta specializzata. Siamo qui, La Zanzara, 800 24 00 24, prima puntata dell'anno, sempre David Parenzo in collegamento da Roma, collegamento che per fortuna oggi non è precario, per fortuna non è precario. Pronto. Che vuoi? No, non sento, pronto? No, si sente bene, non fare lo strozzo, si sente benissimo, si sente molto bene. Oh, io sono incazzato nero per questa storia dei senatori a vita. Senti il presidente del Consiglio, Letta. Sono formiche, quelli che criticano Napolitano sono formiche a confronto di un gigante. Cosa c'entra? Non si può criticare Napolitano per la storia dei senatori a vita, una vergogna assoluta con gli italiani in difficoltà e dai quattro stipendi a vita a una ricercatrice di 51 anni è stato calcolato che se vivesse fino all'età, e noi glielo auguriamo naturalmente, fino all'età della Montalcini, fino a 100 anni, guadagnerebbe 12 milioni di euro, una vergogna. C'era bisogno di nominare quattro senatori a vita? C'era bisogno di rimpolpare il Senato con quattro persone? Sono invece di abbassare la Claire e chiudere il Senato? Cari ascoltatori della Zanzara, c'era bisogno, sì o no? Dai, pare. Letta, Letta, fatemi sentire Letta, su. Letta, non me lo fanno sentire, lo sentiremo più avanti, dai, su. Brunetta intanto dice che i senatori sono tutti di sinistra. Non vedi che è un vero affare. Pensare che questa società sia rappresentata sempre e comunque, nel caso dei senatori a vita, sempre da personalità di, tra virgolette, sinistra, questo mi offende. Impresari che si fanno in quattro per te. Certo che non c'è dubbio, se uno vuole pensare male, se uno vuole pensare male, adesso che Rubbia si è identificato, lo scienziato Rubbia si possa identificare ma come no, un personaggio. Per la fisica, ma dai, ma. Ma perché tu approvi questa operazione di Napolitano di nominare ma quattro nuovi senatori a vita? Ma in neutro, tu approvi in questa cosa, tu approvi questa cosa, di la verità, tu la approvi? Certo, ma fino al midollo. Perché cioè tu sei a favore del fatto che ci siano qua. Ma certo che nessuno mette in dubbio il fatto sì, che sia una facoltà. Ma è uno scandalo quello. Ma è una vergogna, non uno scandalo, è una vergogna. Rubbia, stiamo parlando di Rubbia, un premio Nobel, Rubbia. Ma tu dici. Signor Brunetta dice sono di sinistra perché la fisica quantistica è di destra o di sinistra, ma perché? Vabbè, Rubbia aveva detto delle cose contro il Cavaliere tempo fa, insomma. Ah, Rubbia, pericolo Rubbia, il Cavaliere messo in crisi a Rubbia, ma di cosa si... e dai. No, ma il punto non è questo, di sinistra o di destra, allora... anche se un po' la matrice culturale è quella, Ma come fai a vabbè, ma lasciamo perdere. Ma lasciamo il signor Rubbia, avrà delle idee, è una persona come vabbè, te. Ma lasciamo perdere questo. Perché sei d'accordo con queste nomine? Con perché queste nomine? Perché banalmente, perché i senatori a vita, da che o si cambia la Costituzione, e i senatori a vita sono anche un'opportunità, una ricchezza, un riconoscimento che lo Stato fa a delle figure eminenti. Non c'era bisogno di dare quattro stipendi a vita in più, non c'era bisogno, non c'era bisogno. Ma è facile questo questa roba. Ma non è facile, non è facile per niente, è facile quello che dici tu, sono due grandi figure, i giornali hanno suonato la gran cassa, grandi elogi, lo scienziato di qui, lo scienziato di là. Tu mi dirai contributo. Tu mi dirai in Senato meglio Rubbia di Verdini, meglio Rubbia di Verdini in Senato, tu dici? Beh, no, ma questo lo dirà chiunque, anche Savino da andare. Io invece no, dico meglio Verdini di Rubbia, meglio Verdini di Rubbia al Senato. Assolutamente. Giusto, ma questi qua quando cazzo ci vanno al Senato? Spiegami, quando cazzo ci andranno al Senato questi quattro signori? Quando ci andranno? Ma quando ci andranno? Signor Verdini. Ma qual è il meglio dai, di Verdini? Dai, lo dico io. L'esercito di Silvio, perché Berlusconi ha chiamato anche l'esercito di Silvio, pare che fossero quattro gatti, adesso ci chiamerà Volpe Pasini che dirà no, non eravamo quattro gatti, vabbè. Ma è ancora in circolazione, pensavo che con la nuova certo edizione punto... della Zanzara aspetta. Non ci fosse né la Volpe né neanche Pasini. A un certo punto ha detto quante donne ci sono nell'esercito di Silvio, chiede Berlusconi. Le amazzoni. Allora, due domande preliminari. Sì. Quanti siete? Qui presenti siamo 25, Presidente. Quanti maschi e quante signore? Aspetti che glielo dico che guardo. 1, 2, 3, 6, 12 donne. Sono un po' in minoranza le quote rosa. Bene, Presidente. Bene, ma sono già abbastanza. Sì. E quindi complimenti anche per avere anche delle signore e delle donne nelle vostre fila. Questo è molto importante perché le donne hanno un circuito assolutamente superiore al nostro. E va bene, siamo qui 800 24 00 24, chiamate, abbiamo anche delle grandissime novità che illustreremo più avanti. Intanto è con noi Renzo Piano. Buonasera. No, non c'è Piano. Non c'è Piano, no. Senatore a vita, non c'è. Non hanno ancora fatto senatore a vita Henry De Luca, magari lo faranno, chissà. Cioè, signor De Luca, buonasera. Buonasera. La faranno segretario, non credo, insomma, senatore a vita pure a lei prima o poi, non credo, dopo quello che ha detto. Non mi pare che... No, non ci sono gli estremi, diciamo. Non è in agenda, diciamo, no? Come dire. Soprattutto dopo le cose che lei ha detto in questi giorni sulla vicenda dei No Tab, caro De Luca. Un po' fortine. Un po' fortine, bisogna dire la verità, Io le dico da un po'. Lei dice da un po', è vero, forse nessuno l'aveva notato prima, in questi giorni che c'è un po' di trambusto, qualcuno ha notato queste sue frasi. Io voglio capire una cosa, ma perché secondo lei, questa è una cosa che veramente mi fa incazzare come una bestia, adesso glielo dico così, papale, io parlo come si parla tutti i giorni per strada, non senza troppi fronzoli. Come si fa a sostenere il fatto che si può sabotare la TAV? Me lo spieghi? Senti un po', si può sabotare la TAV, si può sabotare un'opera inutile e nociva per gli abitanti di quella valle, un'opera che... che in previsione distruggerà acqua, aria, suolo di quel territorio. La Val di Susa non ce l'ha un'altra valle di ricambio. Però scusi un attimo, De Luca. Non possono permettere quella opera. E quindi io constato e sostengo che si tratta di un necessario sabotaggio, di una necessaria ostruzione. Sì, però scusi De Luca, innanzitutto lei ha detto sì, stanno distruggendo quella valle, è una tesi, c'è pure la tesi di chi pensa, no, invece non è così, stanno costruendo un'opera che serve, stanno costruendo un'opera con tutte le precauzioni del caso, ovviamente sono opere invasive, eccetera, eccetera. Lei invece dà per scontato che quella valle è in procinto di essere distrutta. Personalmente io sostengo le ragioni della maggioranza di quella valla che da molti anni si sta battendo contro la costruzione di quell'opera. Io personalmente non sostengo niente, perché sono a fianco di popolazioni di quella comunità che difendono, fanno un'opera di legittima difesa del loro territorio contro uno Stato che li tratta da sudditi. Però scusi un attimo, obbedire, basta. Però se uno Stato ha deciso attraverso le sue istituzioni democratiche, che sono il Parlamento, eccetera, e non di un governo solo, ma di tanti governi regionali, governi provinciali, governi nazionali, di tutti i colori politici, che quella cosa va costruita, a un certo punto uno non è che può reagire con la forza, altrimenti nei confronti di una decisione della maggioranza, ripeto, non di una sola istituzione, uno può dire vabbè, adesso pigliamo una pistola. No, non si tratta di questo, si tratta della maggioranza di una comunità che si oppone da molti anni allo stupro della propria vallata e credo che abbiano diritto di parola e anche di azione contro lo stupro della loro vallata. C'è diritto alla violenza secondo lei in questo caso? C'è diritto al sabotaggio di quella opera. E dunque la violenza, perché il sabotaggio attraverso... Infatti si vede, arrestano delle persone, le condannano per detenzione di armi atte a offendere, sarebbero delle tronchesi, un casco e una parrucca nel caso di Marco Bruno recentemente agli onori delle cronache. Però scusi De Luca, non ci sono solo quello che dice lei, c'è anche Molotov, maschere antigas, fionde, cesoie, chiodi a quattro punte, altro materiale, minacce... Ferramenta. Come ferramenta? Insomma, non bisognerà portare il certificato di residenza, il porto d'armi per entrare in una ferramenta, si possono acquistare cesoie, chiodi e tal. No, però scusi De Luca, se uno porta in giro una borsa dove ci sono Molotov, maschere antigas, fionde, cesoie, non è che va a fare il lavoro di ferramenta, va ad assaltare un cantiere, abbia pazienza. Va a sabotare un cantiere. Ho capito, ma che deve fare la polizia? Deve sequestrare questa roba e portare la gente in galera? No, non c'entra la polizia, c'entra un governo che deve finalmente che ne arrivi uno, perché ne arriverà prima o poi uno che dirà vabbè, lasciamo perdere. Che riconoscerà la cosa e annullerà tutta la TAV, diciamo, cancellerà la TAV. Le zanzare di casa di me, quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Io dico semplicemente grazie a Silvio, perché ho detto anche ieri prima che ci vedessi, dicevo vale per me, vale per te, come dice quello, se i nemici mi guardo io, dagli amici insomma mi guardi di te. Adorano perché abbandono il mio corpo. Era sempre la coppia del secolo, Pannella Berlusconi su amnistia, leggi, referendum. Siccome Berlusconi sulla cosa delle droghe manco sapeva di cosa si trattava, ha firmato così. Ma siamo qui la legge Bossi-Fini. Sì, ma la legge Bossi-Fini, figuriamoci. 800 24 00 24 con Henry De Luca, scrittore fortemente notab, ha detto delle cose molto forti, soprattutto sul diritto al sabotaggio. Voglio chiedere a De Luca. No, una cosa sola. L'esempio, Parenzo, che si può fare a De Luca, però, e che secondo me taglia la testa al toro, anche se in questo caso taglia, è una cosa un po' bizzarra, è questo. Scusi, signor De Luca, se uno viene a casa sua e taglia con le cesoie, mettiamo che i notav si limitino a questo e in realtà non si limitano a questo, e tagliano con le cesoie la rete del suo giardino, lei si incazza come una bestia, diciamola tutta, o no? Intanto il mio giardino non ha rete. Vabbè, adesso vediamo. Ma comunque si tratta del contrario, e si tratta cioè di un intervento fatto addirittura con l'esercito per imporre a una comunità la servitù del loro territorio. E la loro lotta è semplicemente la difesa del loro ma allora vale anche sparare della integrità del loro territorio, vale anche sparare allora l'aria, la vita. D'accordo, se uno mette in pericolo la vita vale anche sparare allora. Se uno mette in pericolo la vita non c'è altro da fare che lottare a oltranza. Dunque anche con le armi pesanti, non solo con... No, non credo che sia necessario, credo che la loro testimonianza e la loro lotta continua sia sufficiente a sabotare questa opera. Cioè assaltare un cantiere, no, secondo lei è legittimo? Assaltare un cantiere da questo punto di vista, siccome stanno distruggendo la valle e sono, dice lei, contro la maggioranza, in realtà poi non è molto chiara questa cosa, è legittimo. Tagliare le reti di quel cantiere, sabotare quell'opera è una cosa giusta. E se un poliziotto ci va di mezzo? No, non ci deve andare di mezzo nessuno. Ho capito, ma non è che... Invece... Ora ci stanno andando di mezzo quelli della Val di Susa. Ci stanno andando di mezzo di brutto. Parenzo, dimmi. Dico al grandissimo Henry De Luca, grandissimo, in questo caso secondo me no, grandissimo manco per niente. Come scrittore mi piace moltissimo, questo che dice mi fa incazzare. No, come scrittore questo che dice mi fa incazzare da morire. Gli chiedo, stai a vedere che allora adesso in tutta sta vicenda il criminale diventa il dottor Caselli che sta facendo le inchieste. Lo Stato che sta imponendo con la forza un'opera nociva e inutile a una comunità che si ribella, tutto qua. Ma Caselli è un provocatore? Vai a vedere che ce l'ha con Caselli adesso. No, Caselli è un esageratore, non è un provocatore. L'hanno minacciato di morte. Di pericoli scaduti, ultra scaduti. Però l'hanno minacciato di morte con le scritte e altre cose. Lei non ci crede a queste cose? Non ci crede alle minacce di morte a Caselli? Hanno anche scritto il tuo sputeremo sul tuo cadavere. È scortato, certo, è scortato, sì. Credo che sia ben scortato, ma da tempo, non di recente. Che c'entra che è ben scortato? Scusi. Penso che sarà ben protetto anche dalle minacce di morte. Ho capito, questo non è una cosa mica normale, però, no? Non è detto che siano giustificate. È una cosa normale. No, e chi le giustifica? Ma dico che tra tante persone che rischiano la vita, insomma, lui è uno che è ben scortato, insomma, è protetto bene. Lei dice se la passa bene, dice lei. No, è ben la sua vita sta a cuore a tante persone, quindi è ben garantito, è giusto. Sì, però scusi De Luca, lei guardi che le stesse persone che minacciano Caselli e che lei non penso che approvi, no, le minacce a Caselli, o sbaglio? Non ci so fare, le minacce non servono a niente. Appunto, le minacce sono le stesse che poi pigliano le cesoie e rompono i cantieri, ha capito? Ma lei dà per certo queste ma certo, ma sono le stesse, ma è evidente, lo dico. Facciamo finta che sono le stesse, io sono d'accordo per rompere, per tagliare le cesoie, con le cesoie e le reti di quel cantiere. Anche sono contrario alle minacce, che posso fare? Lei lo dice con tanta naturalezza, però non è proprio così. C'è un senatore della Repubblica del Partito Democratico che si chiama Esposito che dice lei è un cattivo maestro, un ex terrorista. No, allora, intanto non voglio usurpare un titolo che non ho, perché io non ho fatto l'università, non sono docente di nessuna materia, sono rimasto allievo. Poi sono cattivo per tutti quelli che per questi poteri costituiti sono cattivissimi. Per quelli di quella comunità notab sono buonissimo. E dunque? Per il potere costituito? Non è cattivo per voi, ma maestro manco per niente. Adesso noi siamo un po' terzi, in realtà non siamo troppo terzi perché... Avete giustamente fatto un po' di capo d'accusa, giusto? No, maestro non ci so per niente. Cattivo, ammetto, però, che scusi, per qualcuno sono anche antipatico. Sì, però, signor De Luca, essere antipatici va benissimo, noi siamo maestri in queste cose qua. Sì, e dunque assolutamente fa bene alla salute. Però quando uno dice che è giusto sabotare un cantiere, è giusto sabotare... No, ho capito, lei legge vittima il fatto che ci siano delle persone, dei pazzi, che vanno lì e attaccano la polizia, capito? Non è così. Dei pazzi, sono delle persone che non vogliono essere stuprate da quell'opera. Cioè, chi attacca la polizia è giustificato dal fatto che c'è un'opera che stupra il territorio. La polizia non sta a casa sua, la polizia sta. Ma come non sta a casa sua? Uno stupro di una vallata. Ma che devono fare i poliziotti? Non è colpa loro e non c'entrano niente i poliziotti, c'entra il governo che li manda. Vabbè, ho capito, ma il governo, se c'è un pericolo, che deve fare? Cioè, ha deciso di fare sto cantiere perché è stato votato. Ci rinunciasse. Quello a venire. Scusi un attimo, e quelli che perdono il lavoro, a lei non interessa niente, tutti quelli che sono minacciati e che non vanno più a lavorare, i cantieri che chiudono, quel le aziende che chiudono. Quel cantiere va chiuso. A qualsiasi prezzo. Va chiuso e andrà chiuso, sarà chiuso. Andrà alla chiuso. Fine non la faranno quell'opera. Guardi, mi voglio arrogare su questo sono d'accordo con lei. Mi voglio arrogare questo pronostico, non si farà mai. Parenzo, ma che anche dice? Perché la smetteranno. A questo momento la smetteranno di buttare soldi per no, la gente. Ma qui c'è un principio fondamentale. Che devono fare un'altra cosa, è un'opera inutile. Sarebbe la più grande resa a tutti i violenti. L'opera va fatta subito. Una grande resa. E allora quando uno fa, hanno rinunciato a fare una quando una comunità è insorta contro un inceneritore che veniva piazzato là, è stata la più grande resa, è stato semplicemente, ha detto scusi, ci siamo sbagliati. Ma in alcuni casi la violenza è legittima? Quando si tratta della vita, della difesa della propria vita, della vita delle proprie persone, dei propri figli, e si tratta di una invasione, qualunque forma di lotta è ammessa. Qualunque forma di lotta. Lei dunque sta giustificando anche una specie di lotta armata con le pistole, con i mitra, cose. Non c'è bisogno. Va bene, non c'è bisogno, però lei il sabotaggio. Deve essere coerente fino alla fine. Se non bastasse il sabotaggio, vanno bene pure le pistole? No, la lotta armata va bene per i paesi invasi. Se uno invade un paese. Se lei dice che la vallata è invasa. La vallata è occupata militarmente. Quella occupazione militare nostrana, basteranno i sabotaggi e le cesoie contro i... Se non bastassero? Basteranno. Lei non vuole andare fino in fondo però, De Luca. No, basteranno. Si ferma un... Voglio andare fino in fondo e dire che basteranno. Basteranno. Dio un consiglio a Berlusconi, che deve fare Berlusconi? È un'altra questione, lo so, però... Guardi, io nemmeno nomino questa persona per una questione di igiene orale, mi fa male alla bocca. Perché? Ho paura della carie, mi viene la carie, è una questione di difesa dell'antibatterica. Cioè le fa schifo proprio, insomma. No, è nocivo al mio cavo orale. Addirittura, no, nocivo. Provi, anche sulla parola Berlusconi. Provi un attimo, De Luca. No, non ce la fa. Ah, cioè proprio... Non l'ho mai nominata. Non l'ha mai nominata, Mai nominata. Né a voce né iscritto. Addirittura. Cioè lei no, in una delle tante cose che lei ha scritto non ha mai scritto la parola Berlusconi. Può controllare. Pensate, ma cioè le fa proprio ribrecere, è una cosa che le fa orrore. È un'astinenza dovuta a ragioni igieniche. Ragioni igieniche. Ma come igieniche? Ragioni igieniche, vogliamo fare. È come una malattia praticamente, ha paura della malattia che l'attacca. Nel mio caso sì, sarebbe una malattia, mi attaccherebbe. Una malattia. Mi indebolirebbe le difese. Sì. A presto, grazie. Auguri. Grazie. C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto, Monellacci. Fio tutto, cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Affamare la bestia. Questo ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo se non puoi vedermi intorno? Pensate che leccaculismo diffuso, come dice qualcuno, qualche amico nostro, che leccaculismo diffuso nei confronti di questa storia dei senatori a vita, amico mio, Qualche giornale, indovinate quale, uno dei grandi giornali dell'establishment italiani, per esempio La Stampa, no? Ha definito Renzo Piano il Bob Dylan dell'architettura, incapace di non innovare. Ma che mondo è questo? Claudia Abbado, una bacchetta magica per Palazzo Madama. Vai avanti tu che io rimango. Qualcuno ha parlato di modello Einaudi. Io più modestamente, che fai? Tiri la catena del cesso? Che fai? Non ho capito. No, sto dando, ti sto ascoltando con piacere, sto andando a bere le piante intanto. Ah, ho capito, pensavo che stessi tirando la catena del cesso, che giusto appunto arrivava no, a puntino sulla vicenda dei senatori a vita. Io no, più no, modestamente non mi limito a dire di sì, bene, ma io infatti non ce l'ho con loro, anche se dovevano rifiutare. Signori senatori a vita, devono rifiutare. Dico no, scusi, non voglio prendere soldi a tradimento dallo Stato, non voglio che lo Stato abbia sul groppone uno stipendio in più a vita. Non voglio, uno doveva rifiutare, rifiutare, capito? Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Ma perché io devo pagare per tutta la vita la signora Cattaneo? Tu me lo dici perché una bravissima ricercatrice di 51 anni, molto brava, che deve restare nei laboratori a fare il suo lavoro. In Senato ci va Verdini, in Senato va Verdini. Ecco appunto, vedi, è questo che mi fa venire l'orticaria. Cioè noi stiamo parlando di rubbia, di abbado, cioè di persone che possono dare un contributo da legislatore. Ma quale contributo? Ma quale contributo? Dai, quale contributo? Dai. Ma io non faccio l'elogio di Verdini. Verdini come prototipo, no? Come simbolo. Meglio Verdini di rubbia. Meglio Verdini di rubbia. Ma ti rendi conto che in questo Parlamento siede un signore che si chiama Scilipoti, il signor Ranzi? Al Senato, sempre al Senato, sì. A fare le pulce Razzi, no, effettivamente c'è Razzi, il paragone tra Razzi e Rubbia è abbastanza. Rubbia, tu stai parlando di Rubbia, metti in discussione, tu devi dire, Rubbia prenderà gli stessi soldi di Scilipoti, domanda al pubblico della Zanzara, quali sono i soldi buttati? Domandina così. Di chi sono i soldi buttati? Per chi buttiamo i soldi? Per Scilipoti o per Rubbia? Premio Nobel della fisica, il signor Rubbia. Intanto è partito, caro Parenzo, You Zanzara, il grande reclutamento radiofonico della Zanzara. Se avete fegato, aspetta, fermo, se avete fegato, se avete due palle così, mandateci i vostri capolavori alla zanzara@radio24.it. Ora, noi vi promettiamo una cosa, io insieme a David li ascolteremo uno per uno e basta con quest'acqua alle piante, su. Li ascolteremo uno per uno, a meno che dopo due secondi non mi venga il latte alle ginocchia, perché qualcuno già me l'ha fatto venire, il latte alle ginocchia è arrivato già un sacco di materiale, ne aspettiamo altro, cose non più lunghe di 5 minuti, sbrigatevi che devo pure trovare un sostituto a Parenzo, per cui You Zanzara per trovare un sostituto. Che sta succedendo là? Che hai fatto? Come? Che fai? Lo sto facendo la scrollatina, perché quando tu prendi la pompa dell'acqua e la metti dentro il... Sì. Ma che ne sai tu di questo? Tu hai la servitù a casa che fa questo. Beh, è chiaro, io non ho mai innaffiato un giardino, una cosa in vita mia, mai, mai. Io sono tra la gente invece. Titoli del TG3, ma non ti piace questo You Zanzara, non ho capito? Questa grande iniziativa non ti piace, non ho capito. Ma come no? È un'iniziativa geniale che mette un po' in discussione il mio ruolo, ma siccome siamo in una città di mercato, sì, accetto la sfida di queste persone. Qualcuno ho già sentito, ha detto delle cose terribili, dice tutta gente sgrammaticata che parla con un italiano claudicante. Comunque meglio così, forse, evidentemente. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Patto sindacati Confindustria per chiedere al governo un cambio di passo, servono interventi su crescita, fisco, occupazione, Letta, segnale positivo. Svolta della FIAT dopo la sentenza della Consulta, dice sì ai delegati aziendali FIOM, ma ora per il Lingotto serve una legge sulla rappresentanza sindacale. Tra una settimana la giunta si riunisce per decidere sulla decadenza di Berlusconi, ma è già scontro tra chi chiede tempo e chi vuol votare subito. Il PD in pieno dibattito precongressuale, gli ex popolari si schierano con Renzi, Franceschini sono pronto a votarlo se terrà unito il partito. Il Papa, mai più la guerra, il Vaticano contro l'ipotesi di un intervento in Siria, il conflitto potrebbe allargarsi, si rischia la guerra mondiale. La Russia, le prove degli americani sull'uso del gas non ci convincono, Obama e Hollande cercano in casa consensi per l'attacco. Al campionato di calcio appena iniziato è già tifo violento. Ieri sera a Roma Sassi contro il Pullman del Verona e il sindaco Tosi, da noi non sarebbe successo. Yeah. Devo dirvi una cosa, cari ascoltatori della Zanzara, che nel Partito Democratico tutti salgono ormai sul carro del vincitore, anche quelli che qualche mese fa non lo potevano vedere, anche che quelli che non l'hanno mai potuto vedere, anche quelli che l'hanno paragonato a Berlusconi, che hanno detto che era Franceschini. Lasciamo perdere, non voglio fare nomi, Franceschini e altri che l'hanno paragonato gli hanno detto che era amico di Marchionne, che era con gli industriali contro gli operai, eccetera eccetera. Adesso salgono tutti sul carro del vincitore, che è Renzi. La corrente non può esistere più, va studiato un meccanismo diverso, e soprattutto io al congresso non voglio il voto di gente che deve diventare renziana, che sembra una malattia. Che hai fatto? Sono renziano. Guarisci, guarda, prima o poi guarisci. Io vorrei il voto delle donne e degli uomini liberi che hanno a cuore l'Italia e che hanno nel cuore il Partito Democratico, non il voto di una corrente. Sì, va tutto bene eliminare le correnti eccetera eccetera, però bisogna pure dire che quelli che dicono che Renzi è una corrente se l'è fatta, una piccola corrente, no, non è che se lo sono inventato, sono lì in Parlamento, quello è renziano, non è che quando gli dici renziano, come dice Renzi, quelli dicono no, mi devo andare a far curare, no, dicono sì, sono vicino al sindaco di Firenze Renzi, dunque Renzi, anche Renzi si è fatto una sua corrente nel Partito Democratico, si è fatto un suo gruppetto. Come lo vogliamo chiamare? Quelli del quartierino, gli amici suoi? Come lo vogliamo chiamare? Corrente, in politica si chiama corrente senza paura di definire. E dai. E dai, Renzi su, e dai. Brunetta, no, la basta, copertina. Abbiamo già citato troppo. Troppe volte. Domani mi è arrivato un comunicato di questo signore, il suo portavoce. Vabbè, che male c'è se ti arriva un comunicato? Scusa, non mi ho ha capito. Mandato, no, il problema è che me l'ha mandato con tre croci, come fosse, no, in via delle tre croci, lo diciamo per chi non conosce nulla di questo mondo nostro. L'ANSA, quando fa un vabbè, comunicato, una cosa urgente, sì, allora. Attacco, no, non so, l'attacco americano. Vabbè, e invece qual era la cosa? Qual era la cosa? Non merita tre croci il fatto che domani il signor Brunetta va a firmare i 12 referendum, non merita tre croci. Ma anche perché, non mi fare dire delle cose su questa storia dei referendum radicali. Perché c'è già andato Berlusconi poi. Sì, tra l'altro. Gennaro da Napoli. Fammi sentire Gennaro. È un ascoltatore buonasera, da Napoli. Gennaro Caravano, quello che lavorava alla 7. No, ma che c'entra? Tu parli sempre di giornalisti, solo di giornalisti. Gennaro. Dico, è un ascoltatore da Napoli. Lo vuoi far parlare oppure no? Gennaro, buonasera. Sentiamolo. Ciao, buonasera. Dica. Senti, io sono scandalizzato. Da che cosa? Dal fatto che questo abbia fatto 4 senatori a vita. Sì. Perché giustamente noi in Parlamento siamo abituati. Prostituto, puttana. Sì. Pedofili. Adesso pedofili mi sembra un po' troppo, insomma, francamente. No, non è troppo. Ma è pedofili. Fino adesso. Scusami. Sì, sì. Adesso sì. Che abbiamo il piacere e l'onore di mettere 4 persone che possono essere un bigliettino da visita. Ma quale bigliettino da visita? Vabbè, voglio dire, tu come dici, ma preferisci a Verdini a... Ma io non ho detto che preferisco a Verdini come preparazione, come persona. No, l'hai detto, lo so. Vabbè, il Parlamento è fatto per gente come Verdini, come il signor Esposito, come altri. Rubbia, o decide di fare il politico a vita e si candida alle elezioni, oppure resta a fare lo scienziato. Qualsiasi paese democratico, uno come Berdin non potrebbe uscire al Parlamento. Vabbè, non esageriamo, dai, su. Ma è così e lo sappiamo. Vabbè, Gennaro, adesso, allora? Noi abbiamo 4 persone che possono essere un bigliettino da visita per noi che per anni siamo stati gli zimbelli del mondo. Ci buttavano, come si suol dire a Napoli, i coppetelli dietro. Sì, e allora? Quando andavamo all'estero, adesso abbiamo l'onore di fare 4 personaggi così e possono dare pure tanto. Gennaro, scusa, non è che se io adesso vado all'estero la prima cosa che mi dicono, ah beh, l'Italia, sì, beh, è vero, avete il signor Abbado, sì, senatore a vita. Gennaro, su, e dai! Così come ci dicono, avete il signor Berlusconi, signore tra virgolette, posso dire benissimo, avete finalmente uno come Abbado. A parte che Abbado, per quello che mi riguarda, il signor Abbado può andare a fare il senatore a vita a Cuba. a Cuba da Castro. Ah, no, non esagerò mai. A Cuba da Castro, perché lui è ammiratore della della Cuba socialista, della Cuba castrista. Va benissimo, andasse a fare il Senato della Vita da Castro, senza pesare sulle finanze pubbliche, il Senato della Vita da Castro. No, ma tu forse allora lo spreco. Ma l'orgoglio, ma che gli frega la gente dell'orgoglio? Dai, su, ma fammi finire di parlare. Io lo so che tu metti il pepe in culo, Gennaro, ma... a un gatto perché vuoi creare la trasmissione bella e divertente. Io ti seguo per questo motivo, perché mi sei simpatico. Vabbè, Gennaro, allora, la pensiamo in maniera diversa. Secondo te sono... No. Lo spreco, fammi finire di parlare, per cortesia. Lo spreco non è questo, lo spreco sono le tante opere incompiute. Vabbè, in Italia. Un altro discorso. Opere che dovrebbero costare 100 e costano 3.000. Va bene. Lo spreco. Ma certo. Che diamo un bigliettino da visita al mondo intero con quattro personaggi importanti. Vabbè, questo Gennaro, ho capito. Grazie. Secondo me è uno spreco anche questo. Borsa, torniamo subito. 800 24 00. Oh, Gennaro, state zitto un attimo. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dirà te più di stai città e se no a dormire. Oh, è tornato in televisione anche Di Pietro, in realtà non se n'era mai andato, però questa mattina ho avuto il piacere di sentirlo sulla 7, signor Di Pietro. Di Pietro, Antonio Di Pietro, lo conosci? Mi ricordo uno che faceva il pool di Mani Pulite, poi ha fatto. Sì. Ma parliamo di tanti anni fa. Beh, no, guarda che è stato parlamentare fino al 2013 praticamente, poi non è stato rieletto. Poi c'è stato un altro magistrato, un signor Ingroia. Con una rivoluzione fetile, non mi ricordo come si chiama. Civile. Poi c'è stato un altro in politica, uno che fa il sindaco di Napoli. Beh, tutti andati abbastanza in disgrazia, sì. De Malistis, come si chiama? De Malistis. No, De Magistris, quello che a un certo punto ha assunto il fratello, voleva assumere il fratello, non se ne è fatto nulla, no? C'è De Magistris. De Magistris. Però Di Pietro, avanti. Sì, no, senti che dice il governo di archeologia che lei fa ogni tanto, di archeologia giornalistica che lei fa ogni tanto, perché guardare al futuro, lei invece fa all'indietro di archeologia giornalistica, di paleontologia giornalistica. Vanno avanti, te lo prego, e dai. Destra se lo fosse presentata da una parte, sinistra lo presentata dall'altra, stanno insieme, ognuno per poter campare non prenderanno alcuna decisione per gli italiani e rimarremo lì col cielo in mano tutti quanti. Le alla faccio fine vedere il blog. Alla fine ci saranno le vetrine sfasciate. Le faccio vedere il blog di Grillo. No, speriamo di no, speriamo che non ci siano. Cioè, non le bisogna dirlo, sfasciate. Non bisogna dirlo. No, speriamo che io non ci siano. Io sono contro le vetrine posso spaccate. Che non ci siano. Sono contro le vetrine spaccate, ma così finirà. Alla fine ci saranno le vetrine sfasciate, lo diceva pure con una... C'è Cruciani con la Zanzara, c'è Berlusconi in galera, deve andare, capito? Hai capito a me? È Berlusconi in galera con la Zanzara, tutte e due in galera devono stare, capito? Ma perché in galera? Pure e io... E noi dell'Italia valore, noi dell'Italia valore, abbiamo sempre detto che se Cruciani è criminale, criminale che sta con Berlusconi, e quindi criminale per criminale, la Zanzara è criminale, che proprietà transitiva, Berlusconi andrà in galera. Ma perché? Abbiamo sempre detto. Ma che hai sempre detto la proprietà transitiva? No, che se Berlusconi è criminale, Cruciani è criminale, quindi proprietà transitiva, Berlusconi in galera è criminale. Questo per definizione, sempre. Devi fare un'opera pubblica, per forza. Abbiamo detto che dare dei valori, Berlusconi è criminale, opera pubblica fatta, Berlusconi in galera. E è criminale, pure Cruciani è criminale, tutti quanti, noi tale valore abbiamo detto. Oh, ho visto in televisione l'altro giorno pure il signor Mandarà, il nostro amico Mandarà. No, questo è grave, questa è una cosa molto grave. La tua televisione, la 7, ancora diciamo per poche ore, ma comunque insomma, ha fatto una... No, aspetta, ha fatto signor Mandarà. Sempre lì così, butta lì malignità. Sempre. Il signor Mandarà, pare che sia stata fatta una trattativa per avere il... Non la trattativa tra Stato e mafia, una trattativa tra la 7 o chi per la 7, per avere Mandarà in televisione, per avere ospite Mandarà. È stata una lunga trattativa per avere Mandarà, che ci manco fosse Kissinger, questo Mandarà. Senti, Telese ha fatto la guerra per avermi. Signor Telese, secondo me non sapeva un cazzo di questa guerra. Comunque, senti Mandarà. Sono, che lo ammettiamo o no, un esponente del Movimento 5 Stelle, quindi per lui avermi era importante. E ha accettato una sfida che io gli ho fatto, e sono sicuro che per questa sfida lui ha dovuto combattere una vera e propria guerra all'interno dell'emittente che ospita il suo programma. L'ho visto negli occhi di tutte le persone che erano lì, l'ho sentito nelle decine di telefonate. Ma ti pare, con tutti i problemi che ci sono, ma secondo te, posso dirti la scena? Dimmi. Secondo te, al signor Cairo, editore di quella rete, a sentire questa cosa, dice, apre il televisore, improvvisa, dice, vediamo cosa fa la mia rete, accende e vede questo signore con questi occhiali, con sta telecamera, che ripeto, dice, hanno fatto una guerra per avermi. Il signor Urbano Cairo dice, ma come? Una guerra per avere quello lì? Ma come? Ma di che parla? Ma quale guerra? C'è una guerra per avere, che so io, Obama. Ci abbiamo fatto una strategia per avere Obama in trasmissione. Oppure non è Obama, è un altro, dice Berlusconi. Oppure non è Berlusconi, Bersani, ad esempio. Ci abbiamo fatto una lunga strategia per avere. Ma mandala! Mandala! E poi a un certo punto hanno parlato di Bilderberg, di cose assurde. Vabbè. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo con chi andiamo? Francesco da Roma. Sì, buonasera. Buonasera, prego. Un brutto ritorno al telefono, ma fa niente. Guardi, sono rimasto senza parole quando ho sentito la sua retorica fuorviante sui senatori a vita. La retorica fuorviante, non, sì. Non per offenderla, no, ma non c'entrano niente i soldi, non c'entrano niente i 12 milioni che potrebbe prendere la ricercatrice se campata. No, non c'entra niente, no. Qui il discorso è tutt'altro, guardi. No, a lei non gliene frega niente che le rubino i soldi, no, che le tolgano i soldi dal portafoglio. E lei che gli frega? Misera. Lei ragiona in termini di soldi. Lì deve no, ma io non sono in termini di soldi, io voglio chiudere il Senato con la Claire, non ha capito ancora, mettere una bella lapide con scritto qui ha lavorato il Senato bene e male per tanti anni, chiuso il Senato, non serve, chiuso con la Claire, e invece ne mettiamo quattro in più, ne mettiamo quattro in più. Ma non ho fatto un merito, dai. Persone, e adesso le spiego, in 10 secondi, queste sono persone non che hanno dato posti di lavoro, sono persone che hanno allargato gli orizzonti della conoscenza umana. Ma chi se ne frega, ma restino a fare, Francesco, 10 secondi. Ma abbia pazienza, scusi, hanno allargato, che ha detto lei? Hanno allargato la conoscenza umana, hanno benissimo, spostato in orizzonti, benissimo, stupendo, meraviglioso. Allora? Ma questa è la vera politica. Allora? Questa è la politica alta. Loro hanno diritto a questo riconoscimento, e ne avrebbero anche altri. Guardi, le faccio un nome che adesso le faranno di dire. Al Senato bisogna. Ma avrei fatto senatore a vita. Ma bisogna andare in commissione al Senato a sporcarsi le mani con. Sporcarsi le mani con Razzi, con Scilipoti. Bisogna andare nelle commissioni, non stare lì a pontificare. È una politica, scusi, quella è una politica. Dai, faccio su un esempio di chi fa la macchina, ma è chiaro che ci vuole pure l'elettrauto, ci vuole pure il meccanico, ma all'inizio bisogna progettarla. Ecco, questi sono quelli che hanno progettato la vera alta. Vabbè, politica. D'accordo, hanno progettato quello che le pare, benissimo, hanno scritto, pare, hanno scritto, detto ed elaborato delle cose progettato. Meravigliose. Hanno scritto, ma è detto. La vera politica, è la vera ragione dell'esistenza dell'uomo, ma lei riduce tutto l'uomo a 12 milioni di euro. Anche che sono una cifra enorme, però sono ben poca cosa. Vabbè. Rispetto a quello che stanno facendo questi. Vabbè, Francesco, questi sono dei geni, d'accordo, abbiamo capito, sono no, dei geni. Ma non si tratta di essere dei geni, si tratta che scusi, hanno fatto allora per che noi, sono degli stronzi, per scusi, so. non per loro, per noi. Vabbè, Francesco, ho capito benissimo. Camillo da Milano, su, avanti. Popolo. Ah, Camillo Langone, ottimo. No, ma è Camillo da Milano, c'entra niente Camillo Langone. Camillo Langone è un omofobo pazzesco. Camillo! Eccomi! Allora, vada. Allora, io mi riferisco a quello che ha detto prima lei riguardo agli stipendi e tutte queste cose illogiche. Intanto la carica di senatore a vita è costituzionale. Sì, ma questo nessuno lo mette in dubbio. Non è che abbiano fatto qualcosa di sbagliato. Ma nessuno dice che è contro la Costituzione, Camillo, quindi, nessuno va bene, l'ha mai sostenuto. Okay. Poi riguardo a quello che saranno i denari, intanto prima di dire che guadagnano troppo, aspettiamo di sapere come useranno i propri denari. Ma anche se, cioè, anche se quel denaro là fosse dato in beneficenza, è la stessa cosa, è uguale. No, ma come no? Perché sì, se questi denari sì. Vengono impiegati anziché essere messi in tasca ad utilizzo di studenti, di opere caritatevoli, opere pubbliche. Per qual motivo? Anzi, hanno l'opportunità di poter usare questo denaro in modo più corretto, in modo Eh? È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Io non lo trovo tutto sbagliato. A parte il io fatto lo trovo che... tutto sbagliato. Vuole che le dica. Lei non ama il Senato, bene o male. Ma anche non è io non amo il Senato. Ma non è che non amo il Senato in quanto Senato. No, in quanto la Costituzione va cambiata, in quanto le due Camere. Tutto, prima tutto... Non si sentiva il bisogno di nominare altre quattro persone al Senato, se no, a meno che dietro diciamo non ci sia un'operazione tutto, politica. Diciamo quello tutto è un altro questo caos nasce dal fatto che i quattro nominati paiono essere di una certa tendenza politica. Ah, peggio mi sento allora. No, appunto, però visto che questa autorizzazione ce l'ha un Presidente della Repubblica... Ma anche Parenzo è senza parole, anche lui è rimasto senza parole. Sì, dice sono quattro persone, eccetera, in fin dei conti, ma anche lui, vedi, non replica nemmeno... No, perché... io trovo veramente folle questo fatto che voi in questo momento stiate, virgolette... offendendo, perché questa è un'offesa, dei personaggi perché non rifiutano una carica. Allora i vari cavalieri, commendatori, eccetera, dovrebbero tutti rifiutare. È una grossa ambizione. Rifiutare tutti, è un premio. Aspetta, fallo parlare. Allora, Camillo, non ho capito. Vabbè, dovrebbero rifiutare tutti. Grazie, ciao. Annarella! Amore! Come stai? Come stai? Bene, quanto tempo! Saluta Ernano qua. Saluta Ernano. 5 settimane, Ho 5 settimane. Ciao amore ciao, mio. Annare. Allora, che stai? Ma che te sei mangiata, rimortacci dei rimortacci? Senti, sai che mi sono mangiata una bella lombadina di vitella con la verdura all'agro del limone. Sì. Ben che porto a casa. E basta, stai leggera stai stasera. E che altro devo mangiare? E che ne so, a più di 80 anni. Io sono vecchia. Lo so. Hai visto Berlusconi? Sì. Resiste? Aspetta, l'ho visto, c'avevo Berlusconi a 3 metri da me. Ma che è successo? Però non ci ho potuto parlare, perché lui andava lì al Senato, sì. Allora mi ha detto un amico mio che è uno da Digos, senti Annare, qua dentro ci stai solo che tu, sì. Fammi il piacere, ma arriva, state zitta, perché sennò mi mandano un sardegna a me. E allora che hai fatto? E mi sono dovuta stare zitta, Con Berlusconi senti accanto? È entrato dentro al Senato a capoccia bassa, mi ha salutato manco i carabinieri. Mamma mia, ma se deve solo che vergognare. E perché? Se deve vergognare, l'hanno condannato, ha rubato, e ora che se ne vada. E va bene. Lui a Sant'Anche, pure qua sotto una di cosa. Chi? Dalla Carfagna, c'hanno una bocca come una pagnotta di pane casareccio. Ma che c'entra la Carfagna adesso? Perché sta sempre chiacchierando. Ma che gli ha dato Berlusconi a quei due? Ma niente, Gattà. Che lo difendono a tutta Callara, mamma mia, pare che Gesù Cristo è un croce. Scusa un attimo, Pannella, ma visto che così si fa? Ma hai visto con Pannella? Ma l'hanno condannato. Basta, se ne va. Ma hai visto con Pannella che ha fatto? Beh, su questo sai. Senti, non mi parlate di Pannella perché troppo bene, sì, mo è andata a firmarli, non ha firmato mai il referendum, stavolta ci premono. Hai visto, sì. Ma tanto non tanto il PD... E il PD votano tutti contro. Votano tutti per la domani devo andare pure al partito. Che fa Berlusconi? Dici? Già io ho detto pure a quella segretario del partito. Cioè che gli ho detto? Mandate via pure a Sant'Anché. Ma come fanno? Ho capito, ma come fanno? Mo c'è sta sempre lei in televisione. Ma è normale. Uno deve andare, peggio. Ma è normale, ma io veramente, ma te l'estate ti ha fatto, cioè sei più avvelenata di prima, sai? Ma fatta più avvelenata, sì. Mazza, che perché di ti ammazzali perché ero un sacco di soldi e noi altri stiamo a patire la fame. Io non la patisco, però la gente sta a piangere per strada. Ma scusa, te sei appena mangiata la lombardia. Ma guarda che i bupi hanno lasciati loro, è da pagare tutti, ci sono tutti da pagare e non c'è stato, la sinistra sola, c'è stato sempre lui, da quando è entrato con Bettino Craxi hanno fatto il macello dell'Italia. Vabbè, adesso Craxi, le cose, dai, su, sì, è stato da Craxi, è successo tutto il lavoro. Ma stai avvelenata, l'estate, che hai fatto quest'estate? L'estate sei rimasta a Roma? Sono stata sul divano come ci sto adesso. Tutta l'estate? Perché io non ci vado né al mare né in montagna. Mi piace la montagna, ma non avevo voglia manco da andare a montagna perché io c'ho i miei nipoti che abitano, lo sai, i castelli romani sul Tuscolo. C'è una villa sul Tusco. Comunque, guarda, Annarella. Ma perché non sei andato un po' a Annarella? Ma perché non sei andato un po', ad esempio, a Saint-Tropez, ad esempio? Bellissimo, no, a Cannes. Ma sì, a Saint-Tropez. Ma senti, mi fa dire cose, va. Scusa, Annarella, ma hai visto? Ma che mi ha baciato pure Bossi a me. Come ti ha baciato Bossi? Oddio. No, le risate, lì da Giolitti, le risate. Ma quando? Adesso? Quest'estate? Prima che andassero in ferie. E allora che è successo? Niente. Dice, li chiappi tutti, mi ha detto. Chi passava, perché passano tutti dell'anno. Ma tu una volta Bossi l'avevi pure quelli di destra. Sì. Allora passano tutti dell'anno. E allora io mi ci vado apposta, mi metto a sede e li chiappo tutti. Allora ci dico tutto quello che penso, a tutti quanti, a chi tocca andare in lungo. Ma i senatori a vita, hai visto? Adesso hanno dato altri soldi ai senatori a vita, Napolitano, Ha fatto bene. Come ha fatto bene? Ma pure te. Dai, Annarella, su. Come ha fatto bene? Perché ha fatto bene? E perché così paghiamo sempre più soldi, no? Ma appunto, e dai, su. No, ma che sono brave. Vabbè, Annarella, però... 20.000 euro, ma te rendi conto? Io ne ti ho manco dentro un anno e mezzo 20.000 dai, euro su, all'anno. Dai, su, dillo chiaramente con una vergogna questa cosa dei senatori a vita. Dillo pure te. Della nomina di questi quattro senatori a vita, una vergogna pure questa. Ma io ma chi conosco, chi so? Ma non sai chi è Rubbia? No, quello c'ha 52 anni, deve campanarsi 50 anni, c'è stata da 20.000 euro al mese. È brava. Ma qua siamo matti. È brava. A me mi hanno aumentato denaro, dopo tre mesi mi hanno rilevato. Ma guarda, con questa cosa hai centrato il problema. Hai centrato il problema. Hai centrato è uno proprio... schifo proprio, Questa legge Fornero, pensa che io... Ma che c'entra la legge Fornero adesso? L'unica che non ho mai chiappato, non ho mai vista. Cosa? A Fornero, perché se la vedevo io... Che gli facevi? Beh, mi sa che manco campava. La zanzara stronza. Beh, ti ho invitato un grande personaggio, Parenzo, un grande personaggio ti ho invitato, Dopo una spruzzata di Annarella, ho invitato un grande personaggio, grandissimo. Renzo Piano. No, Renzo Piano, un senatore a vita, l'abbiamo trattato male, non verrà mai qua. Il maestro Abbado. No, il maestro Abbado a casa di Castro, a Cuba. Il maestro Abbado, no, chi potrebbe... Ah, beh, potrebbe essere il personaggio di un consiglio, Ainis, ad esempio. No. Gianluca Buonanno, buonasera. Ciao a tutti. Come ciao, stai, come caro, come stai? Dopo che ho letto il vostro libro sto meglio. Bravo. Ho pagato e comprato il libro, guarda. Com'è che lo chiami, Parenzo? No, dai, di a Parenzo di smettere di dire. Davide! No, non per me, perché insulta un po' la memoria di mio padre, mi dà fastidio. No, questo non è per questo. Esatto, io ho sempre detto che io dico i nomi in inglese. Good ass. Good ass. Scusa un attimo, io voglio capire l'ultima grandissima iniziativa di Gianluca Buonanno. Perché poi hai dato buon anno, come è scritto? Sì, cioè, sì. Questo devi capirlo. Buona, tutto attaccato, non buon anno staccato. Buon anno, buon anno tutto attaccato. Tutto come attaccato. Gli auguri, tutto attaccato. Tutto attaccato, cioè non... C'è buon anno? Sì, no, ma con due N. Con due N, con come due gli auguri. Cioè non con... Capito? Capito? Parenzo fa sempre il finto tonto. Ma sai qual è lui? Ma ho detto che ha fatto flop lì con Rai 3, Parenzo, con la sua trasmissione delle palle che ha fatto schifo, l'hanno chiuso perché faceva poco ascolto. È arrivato Tullio Chesi, c'è capito? Aldo Grazie. Ma scusa, però, Gianluca, abbi pazienza, dimmi. Tu dici prima, no, Parenzo, per favore, non mi storpiare il nome, in memoria di mio padre, e due secondi dopo gli dici che quello ha fatto schifo, adesso questo te massacra, giustamente, no? Abbi pazienza, dai, e dai. Io ho detto una verità. Però scusami Gianluca. Programma abominevole. Pagato da tutti i contribuenti. Quello sicuro. Troppo poco. Scusami Gianluca, ma... Dai la parola allo statista, giusto? Sì, allora, sì, no, prosindaco di Varallo Sesia. Ha avuto una grandissima... Parenzo, tu la sei l'ultima iniziativa del signor Buonanno, Parenzo? No, che io chiedo scusa se non seguo ciò che fa ogni giorno questo signore. Allora, signor Buonanno ha speso qualche centinaia di euro per comprare dei profilattici per distribuirli poi agli extracomunitari della sua zona. Della zona di Varallo Sesia, perché in questo modo sostiene lui, come tu dici, il Kissinger della Lega, così dici, così sostiene che non faranno figli, perché ha paura, capito qual è la ratio di questa cosa qua? Un'idiozia proprio incommentabile, ma magari un'idiozia proprio idiota. Scusi, buon anno, ma chi è che ha preso questi preservativi? No, ne hanno presi un po' di extracomunitari, ho preso anche qualche italiano, perché li ho presi con i miei soldi e li sto regalando a chi me li chiede. Ma perché c'è comunque un dato di fondo importante, ve lo spiego. Ma qual è il dato di fondo? Il dato di fondo è questo, che molti extracomunitari, non tutti ovviamente, sì, ma molti, sì, praticamente con il ricongiungimento familiare o comunque facendo diversi figli, sì, poi non hanno la capacità, la possibilità di mantenersi. Ora, in un momento di crisi come questo, sì, gli italiani che chiedono aiuto sono sempre di più rispetto a prima. E la prima cosa che ti dicono quasi tutti, questo per esperienza da amministratore, è siccome aiutate loro con le, gli alloggi, con gli aiuti buoni spese, eccetera, eccetera, oppure non pagano la mensa, la pagano in parte, anch'io ho diritto di avere un aiuto. Allora, siccome gli aiuti sono difficili da dare a tutti, se tu non riesci a dare l'aiuto, lì nasce il vero razzismo. Cioè, no, però, italiano... scusami, no, aspetta, tu stai facendo un ragionamento articolato. Un ragionamento articolato, ma comunque è vero. Cioè, che la gente, chi ha pagato sempre le tasse, chi risiede da noi... Ho capito, ma perché deve distribuire questi preservativi agli extracomunitari? Aspetta, perché è un modo per cercare di far capire che non è che si può continuare solo a fare figli, bisogna anche avere la coscienza di capire che poi bisogna mantenerli. Allora, questo è solo un modo gentile per dire ragionateci sopra meglio, perché poi quando avete 2, 3, 4, 5 figli, posso dire, e poi ci chiedete, allora ti faccio un esempio di Varallo, ma vero, ma quelli magari si prendono, scusa Gianluca, ma magari quelli si prendono i preservativi e si rivendono, no, magari. Vabbè, non penso che siano a quel livello lì, però il 6% della popolazione straniera di Varallo utilizza circa il 50% di alcuni servizi sociali della città di Varallo, che mette a disposizione per quelli che hanno più difficoltà. Vabbè, cioè il 6 ti mangia il 50, se il 6 mi diventa il 10 o il 12 io non ce la faccio più. Quindi un modo elegante, tra virgolette. Ma come elegante? Distribuisci i preservativi in giro? Ma no, ma ovviamente non è che vado col banchetto al mercato, vengono in maniera spontanea chi vuole, non è che è obbligatorio per nessuno, e se vogliono li prendono. Poi ovviamente non è solo esclusivamente per gli extracomunitari, ci sono anche italiani che l'hanno preso. Parenzo, però diciamo che la tua opinione? Il 90% sono loro. Ma io mi sentirei io mi sento profondamente, se non conoscessi il personaggio, e purtroppo anche gli extracomunitari che abitano lì gli ridono in faccia quando lui passa, gli ridono veramente in faccia, perché voglio dire, ma cosa ne sai che abbiamo dato questo signore penso qui, anche alla nostra gente, un modo per ragionare. Ma che ragionare? Regalo, non è che glieli faccio pagare e non spendo soldi pubblici. Vabbè, allora mi sembra una cosa. No, io dico al Deng Xiaoping della Lega, perché soltanto in Cina fanno il controllo delle nascite. Lo dico al signor Deng Xiaoping della Lega, il Buon Anno, il signor Buon Anno, che è oltremodo offensivo. Ma Renzo, che sei un cretino se continui a dire così. Io continuo a dirti che sei un cretino. Lascia stare il mio cognome. Vabbè, dai, adesso non c'è niente contro tuo padre, Gianluca. Vabbè, comunque se dice così, allora invece di Parenzo lo chiamo paraculo, è bello. Vabbè, che buon anno, buon anno, dai, uno scherzo, una cosa scherzosa, dai, buon anno e buon culo sarebbe, dai. Non è un'offesa alla memoria di tuo padre, dai, Gianluca, soggettivamente non è così. Allora che dici? È profondamente offensivo, perché è come dire che gli extracomunitari fanno tanti figli, cosa peraltro non sempre vera, quindi anche lavorando su uno stereotipo stupido, ma poveretto, poverino, lui siccome deve finire su, si annoia, perché lì a Varallo non ha un cazzo, la verità è questa, poveretto, lui lì a Varallo non ha un cazzo da fare, si gira la mattina, si alza, cosa faccio stamattina? Ma sono due coglioni gli immigrati, oppure cosa faccio? No, dico che la polenta, che la polenta, che il grana è padano, non ha un cazzo, poverino, si annoia, se uno si annoia fa cazzate, no? Quindi lui si annoia, per fare programmi brutti e schifosi come il tuo su Rai 3 che paghiamo tutti, io faccio delle cose con i miei soldi, non prendo i soldi dei cittadini, al contrario di te che sei stato pagato in maniera indegna per un programma che faceva cagare, dopodiché ti ripeto, io faccio quello che ritengo opportuno, e se dopo 20 anni mi votano ancora con percentuali bulgare, ti devi domandare forse che c'è un qualcosa di significativo, hai capito Parenzo? Comunque, scusami, ti voglio segnalare onorevole, rispondi anche... Parenzo, ti ha attaccato, rispondi. Purtroppo bisogna chiamarlo anche onorevole, capito? Onorevole. Ma no, chiamami pure Gianluca, che a me non me ne frega niente dell'onorevole. Però tu che vieni a fare la morale, guarda, c'ha ragione quelli che ti telefonano che dicono che c'è proprio il disastro completo. Quale sarà la tua prossima puttanata? Se ce l'annuncio ce la subito. La ti prendi e metti sotto aceto, guarda. Che fai? Lo prendo e lo metto sotto aceto, prendo un barattolo un po' più grande del normale, lo metto sotto. Ma non è che tu sei, però non è che tu sei Gianluca, scusami, signor Bonanno, non è che lei è, diciamo, è un batusso da questo punto di vista, cioè, adesso poi ve ne dico un'altra. L'altro giorno, domenica, sì, no, sabato, sulla Novara Varallo, il treno, che è successo? Quattro extracomunitari hanno malmenato il controllore che gli ha chiesto il biglietto. Vabbè, il biglietto loro non ce l'avevano, l'hanno picchiato a sangue, 30 giorni di prognosi. Vabbè, succede. Ecco, allora io vorrei sapere se il ministro dell'integrazione fa una telefonata, va a trovare questo. Vabbè, vedremo. Camminare al centro con la macchina alle tre. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Annarella, ci sei ancora? Senti, ma perché non mi ha fatto parlare con Bonanno? Sta qui Bonanno, parlaci. A Bonà. Sì, quando... sono qua. Eccolo, eccolo. Senti, o sa chi so? Sì, sì? ti ha riconosciuto. Mamma, di un po' chi so? Ma lo sa. Ma sì che lo so, Annarella, ci vediamo sempre fuori dal Parlamento. Bravo, come stai? Ti ho dato anche la pochette della Lega. Anche siete diventati amici adesso, Annarella? Beh, certo. Ma no, io sono stata sempre amica, io saluto tutti, au. A me chi ne parode, ci devo dire cose. Bonanno lo sa. Allora? Sì, certo. È vero, Bonà? Vero. Senti, ma questa settimana se li vedremo allora. Certo che ci vediamo. E io domani vado giù. Bene. Io non ho capito una cosa, Andare, Lesmo sei diventata amica di quelle della Lega? Sei diventata amica di quelle della Lega? No, aspetta, io sono. Bonanno sa che io parlo con tutti, solamente non so, amici. Io voglio bene a tutti, pure ai carabinieri, poliziotti. Vabbè, che stanno là, certo. Tutti figli miei. Scusa voglio un attimo, capire, Annarella, io voglio capire una cosa, Annarella, ma tu sei, anche tu sei salita sul carro di Renzi, Annarella? Sì? Anche tu sei salita sul carro di Renzi, del nuovo vincitore del Partito Democratico? Renzi a me piace, però parla troppo. Hai capito? Parla troppo. Invece se dice parla poco e picca troppo, e picca bene. Picca bene che vuol dire? Scusa. Paese mio. Beh, quello è un altro significato però, Annare. Vabbè, quello sta, parla troppo. Comunque... Buon anno. Sì. Lo sai che cosa ha detto oggi il ministro Kyenge? Due cose, innanzitutto che la Lega sono i leghisti da integrare, sono i leghisti che hanno bisogno di essere integrati, questo ha detto. E poi ha detto che i suoi film preferiti sono Kunta Kinte e Totò. Signor Kunta Kinte. Totò posso anche essere d'accordo con lei, che mi fa ridere, è sempre è un stato vabbè, un Kunta Kinte era... Kunta Kinte va bene, la, lei. La serie di Radici, no? Novena. Gliela retta stimati. Ma come? Comunque ha detto anche che belli di casa. Perché non ci parla del ministro dell'integrazione della Tares, che sarà una saccagnata per tutti i cittadini, perché dobbiamo pagare anche e tirare sui soldi dell'immondizia anche per Roma. Vabbè, a questo perché che non c'entra ci parla adesso, di... No, perché è così, visto che fa parte del governo, perché non ci parla della boiata dell'IMU, che hanno tirato via l'IMU da una parte e aumentare le tasse dall'altra. Kyenge, e poi ci dicono perché non c'è l'integrazione. Parliamo della Kyenge, non di queste robe qua. Scusa, che c'entra? Visto che fa il ministro. Sì, ho capito. Però mi sembra che fa il ministro che... della superficialità, perché non dice, fa solo dei discorsi molto astratti, ma non ne fa uno concreto. Comunque ha detto che sono i leghisti a dover essere integrati, capito? È vero. I leghisti, com'è vero, Parenzo? Scusa. Ma questo è stravero, beh, lui in particolare, lui con le sue... Secondo la Kyenge i leghisti devono essere quelli integrati? Sì, certo. No, quelli da integrare. Sì, da integrare sono loro, per quello che pensano. Cioè. Beh, li va insegnata l'educazione. Questo non forse dubbi, hanno bisogno di essere integrati, questo ha detto. Sì. Allora si studia un po' la storia della Lega degli ultimi 20 anni e poi capirà, probabilmente perché magari era un po' assente o distratta, che cosa significa il fenomeno della Lega, che cosa significa la questione del Nord, che cosa significa cercare di combattere per non mantenere quelli che invece dormono. Comunque, Parenzo, perché invece ha ragione? Se... A gente come questa qua gli va spiegato il viver civile, capito? Quindi è ovvio che va integrato. C'è un tentativo di integrazione da Buonanno, ma si rifiuta chiunque. I servizi sociali, tu gli chiami, dici, guarda, se sarebbe un attimo di insegnare l'educazione civica a un dice chi? Dice il signor Buonanno. Ah, no, è impossibile. Guarda che i servizi sociali da noi sono quelli che funzionano meglio. L'integrazione maggiore c'è, se non lo sai, casualmente proprio in Piemonte. Ma e questo dai, è dovuto a che cosa? Chi fa il governatore in Piemonte? Lo fa uno del PD o lo fa uno della Lega? Vabbè, ma quale sarà la prossima pagliacciata? Qual è la prossima pagliacciata che ci propone? Questa pagliacciata legislativa che propone? Qual è la prossima pagliacciata? Cosa credo la sigletta del circo, penso che tu sei uno un po' sottosviluppato, che ha tanti problemi mentali, che fa un programma che ha fatto schifo. Ancora e che a quel punto questo programma che fa schifo adesso devi prendertelo con chiunque perché sei proprio frustrato, ecco, sei proprio un ragazzo frustrato, mi fa un po' pena davvero. Comunque c'è un produttore. No, no, scusami. Vieni. Scusami, sai cosa fanno quando lui entra al Senato, alla Camera, non so neanche dove, purtroppo. Entra e parte subito la musichetta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ecco a voi l'iniziativa legislativa dell'onorevole Buonanno. Ma tu scusa, non eri un consigliere di quartiere del PD a Padova? Tu che sei tanto furbetto, non eri uno di sinistra a Padova? Del PDS, eh? Del PDS. Ah, del PDS, capogruppo. Sei un comunista, e adesso vieni qua a parlare. Tu a Padova sei nato nelle liste del PDS. Del PDS. Ero capogruppo. Perfetto. Eri con quella gente lì, complimenti, bravo, adesso ci fai la lezione di moralità. Non è che stavo con Totorrina, però scusi. No, ma visto che dice che tu la politica fa schifo, siamo tutti persone non degne, e lui invece era nel PDS con Occhetto, il nuovo che avanzava, allora. Io dico che le tue iniziative... Ah, D'Alema, no, adesso quando tu parli sei squalificato a vita, guarda. Comunque ragazzi, oggi un produttore di vino abbastanza conosciuto in un... non mi ricordo dove... Sei in Veneto o in Trentino? Credo in Trentino. Anzi no, in Veneto, nemmeno in Friuli, vicino Gorizia. Fulvio Bressan è stato praticamente bandito dalla comunità dei produttori di vini perché ha scritto su Facebook: sporca scimmia nera alla Chieng, negra mantenuta di merda. Ancora cita Chieng e poi delle cose sulla Boldrini, Vendola, eccetera eccetera, delle cose agghiaccianti, ed è stato sostanzialmente espulso dalla comunità del vino. Poi ha detto pure: io non sono razzista, eccetera eccetera. Ma però sai, se ha l'esempio di alcuni politici, se ha l'esempio di gente come Calderoli che dice quella roba lì, è chiaro che chiunque si sente legittimato... Ma non dire stupidaggine. No, Parenzo dice certo. Stupidaggine. Uno poi ha chiesto scusa, e due comunque Calderoli, io lo dico qua e lo ripeto, Calderoli per me è una delle persone politicamente più raffinanti, intelligenti che ci sono, perché tecnicamente è veramente una persona in gamba. Raffinato soprattutto. Raffinato nel senso che sa i meccanismi, sa i regolamenti, sa le cose, ed è uno raffinato. Educato a Buckingham Palace, educato Buckingham Palace. Ma no, adesso tu ogni volta devi sempre poi cercare l'estremo per far capire. Comunque io l'estremo da uno che stava nel PDS mi viene da ridere, ma è sotto la quercia, va, che magari arriva un fulmine e ti colpisce. Educato alla corte. E così smetti di rompere le palle in giro. Ciao Gianluca. Secondo me sei uno che guarda film porno, guarda. Ah, Parenzo guarda film porno? Perché? Ma secondo me sì. Perché dici? Ma perché è un frustrato di natura. Dici, beh, meglio poverino. Guardare quello dei comizi di poverino. Mi fa un po' pena, ma senti Parenzo, comunque sei tranquillo che per te una ciotola di latte qualcosa ti daremmo sempre, stai tranquillo. Una ciotola di latte. Ciao Gianluca, a presto. Ciao Narella, ciao. Ah, Parenzo! Che c'è? Che c'è? Dai una ciabattata in faccia quando te dice che batte dell'elemosina. Scusami, è un paraculo. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Non mi moleste moschito. Siamo qui con Gianni da Lucca. Buonasera Gianni. Pronto? Eccoci. Pronto, è il Cruciani? Sì, sono io. Senta, io quello che dovevo dire in realtà l'ho già detto alla signorina prima quando... Ma quando l'ho chiamato, lo dica pure a me perché non l'ho sentito. Scusalo qua. E glielo dico pure a lei. Gli ho detto: ma che aspettate a mandare via quel cialtrone di Cruciani? Ma ora siamo matti a parlare di persone che fanno l'onore dell'Italia ancora. Va questi bene? Senatori a vita, sì, questi senatori a vita, sì, perché è facile. Contento parlare lei, contento lei. È facile, ma sono persone queste che hanno fatto l'onore dell'Italia, a differenza di chi va benissimo, si è fatto ridere, certo, dietro, ha capito? Ma va benissimo, ecco, va benissimo, ecco, ma questo, non è necessario essere in Senato, non è necessario. Che vuol dire non è necessario essere in Senato? In Senato ci vanno le persone degne. Di solito ci vanno le persone degne, e il Presidente della Repubblica l'ha ritenute degne, ha capito? Sì, ma nessuno. E il suo amico invece non ce l'ha messo. Ma amico. Chi? Mio amico chi? Ma Cruciani, chi? Io direi che a culo l'ho visti, sì. Ma come lei, ma l'ho visti pochi. Caro Gianni, sì, io il culo non l'ho mai leccato in vita mia, vedo che se lei usa questa parola evidentemente è ad uso a queste cose, è abituato a leccare il culo. Lei, no, caro sì, pallino, sì. Io non lecco a nessuno il culo. Sento che lei è sempre a sviolinare quella musica. Ma a sviolinare certo. Chi? Ma lei non ascoltalo, lei è sordo, ascolto, è sordo. Ascolto. Ma io l'ascolto sempre, mi meraviglio che l'abbia ancora mandato via. E per sua sfortuna no, mi dispiace, per sua sfortuna per no. Mia sfortuna, ma infatti io l'ascolto poco. Stasera l'ho ascoltato perché mi sento incastrata così, alla radio. Per caso, sì, cioè sei incastrata. Ma se no non l'ascolto più perché sento talmente delle cazzate. Sì, beh, ma certo. Proprio grosse, ma grosse come case. Grosse come case, certo. Da lei, da quell'alto su. Sempre, però ultimamente non ascolto più. Da quell'altro però suo. Però ascolto sempre. Sì, da quell'altro suo che è Gianni, non ho capito. Tira filo Parenzo, tira filo. Gianni, lei è forte, lei è forte. Sì, sono forte, e gli dico le cose in petto, scusi. O lei le dice le cose in petto. Ma infatti mica ho detto niente io. Lei pensa che sia giusto nominare i servitori a vita? Benissimo, per carità. Ma è giusto, se lei vuole fare, se a lei piace pazzi fatti i soldi. Non che vanno a fare le corna, alle cose, alle assemblee, laggiù a... in Europa a farsi pigliare per il culo lui e tutti noi italiani. Vabbè, è fissato con Berlusconi, ma quelli hanno nominati napoletano. È vent'anni sta su coglioni, è vent'anni. Le sta proprio su coglioni. Le sta su coglioni. Lei fa sempre le sviolinate tutte le sere. Ma la faccia un po' finita la faccia. Gianni, a me non me ne frega un cazzo di Berlusconi, non ha capito ancora. Non me ne frega nulla di Berlusconi, non ha capito ancora, non ma ha ce afferrato. La posso fare una bella risata, tipo. È sempre di buono a fargli il pelo e il contropelo, ma via, la faccia finita, la faccia un po' di decenza. Ma le viene anche da ridere, le viene, ha capito? Le viene pure da ridere, questo è bello, le viene anche da ridere. Per quante da ridere, Cruciani. Per quante stupidaggini. Sarebbe anche simpatico, ma è troppo lettaculo. Ma dove? Troppo. Quando? Con chi? Con chi, Gianni? Mi sarebbe simpatico, io l'ho visto anche in televisione. Lei è un tipo che ma lei è simpatico. Però lei è abituato a questa pratica, Ma io no. Abituato io a questa pratica. No. Questa pratica. No. È come no, è abituato. No, io quando vedo certe cose, fino a un po' resisto, ma poi non ce la faccio più. Non ce la fa più. Di cosa si occupa lei, professore? Maestro, di cosa si occupa lei? Gianni? Di cosa si occupa lei, maestro? Io di cosa mi occupo? Sì, che sono pensionato. Pensionato. Non c'è un cazzo da fare da mattina alla sera. Ma anche i pensionati possono esprimere la loro, no? Sì, no, ma io non c'è un cazzo da fare da mattina alla sera, giustamente. C'è un cazzo da fare. E sicché mi cambio di sentire delle teste di cazzo che parlano a vanvera. E scusi, posso dirlo che non sono d'accordo? Assolutamente, ma si figuri. No, diciamo in Russia. Io in Russia ci vorrei tornare. Ci vorrei andare. Grazie Gianni, a presto, grazie. Roberto D'Agrigento. Beh, su questo Gianni ha ragione. Pronto? Dica. Realmente cominciate di nuovo a rompermi il cazzo. Cioè, siete stato un mese in vacanza, dove sei stato? Dopo un mese. Ma saranno affari miei dove sono andato. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Poi c'è quel nono nano, io non lo so. Che è un mio dipendente, tra l'altro. In che senso è il suo dipendente? Sì, ha fatto quella trasmissione di merda. Vabbè, ma che c'entra? Non è che è il suo dipendente, scusi Roberto. Adesso dipendente di chi? Di questo qui? Ma tu lui sostiene che di essere di il questo? Tuo datore di lavoro, signor Roberto. Sì, io devo pagare il canone, lui no. Di questo decorticato qui? Che significa? Perché devo sentire lui? E dire quelle cazzate con quelle giacche lunghe che porta sul... Ma che cazzo volete poi? Io te l'ho detto una volta, te l'avevo detto. Che cazzo vuoi stare con queste giacche che ti arrivano sul ginocchio? Aspetta Roberto. Ma tu non gli dici niente, non lo so. Sei un mio dipendente. Ma Gianni, tu non gli dici niente, anche se mi stai sul cazzo anche tu. Tu niente gli dici che sei un amico. E che gli devo dire, scusa? E che minchia, che cazzo... Come cazzo porta queste giacche? Ma non lo so, ma porta bene, ma normalmente. Ma chi è questo qui? Ma chi è? Ma che cazzo dici? Non mi parlare con una mano. Fammi parlare. Ma chi sei? Ma chi sei? Boglioli, tu Armani? Ma chi sei? Sei un signor... Come si chiama questo signor? Nessuno. No, nessuno. No, io Roberto. Sì, Roberto. Berlusconi. Io non so chi ti piace. Ma di che cosa parli? Tu sei una mano. Perché sei andato a fare questa trasmissione? Dimmelo. Ma che ti interessa, Roberto? Che ti interessa? Ma che c'entra il nonno? Ma che mi interessa? Ma che cazzo? Ma guarda, la tua trasmissione, a parte che fa rompere i coglioni a tutti, perché voi... Ma perché, perché quel giorno i tuoi genitori sono unidirezionali? Unidirezionali. Quello che cazzo, quello che dite voi è sempre... giusto, quello che dicono gli altri appena dice ma mi spieghi perché tagliate oppure mettete l'ambulanza o quell'altro, il nono nano comincia a fare delle cazzate. Ma perché il nono nano? Scusi, perché il nono? È libera, posso parlare anche io? Ma lei sta parlando da 20 minuti dicendo delle cose incomprensibili. Lei sta dicendo delle cose incomprensibili, ogni due per tre dice cazzo senza senso, uno deve sapere anche dire le parolacce. Perché senza senso? Perché i suoi genitori? È giusto dare una trasmissione perché è comunista lui a Rai 3. Ma che ne so? Ma Roberto, ma non ci rompa le scatole con questa storia, ma sul traffico. Ma che c'hanno sti genitori? Che c'hanno sti genitori? Parenzo, che c'ha? Tu quanti anni ha lui? Quanti anni ha? Tu sei come Parenzo, Bruciani, io ho 39 anni. 39. Ma 39 che anni. Che mestiere fa lei, disoccupato? Che fa? No, io impiegato sono. Impiegato statale, ovviamente, no? E tra l'altro sì. Statale, beh, è chiaro. Dove? È chiaro, sì, proprio in concorso, io non come voi. Concorso, certo. Concorso. Io non so se tu... Concorso da dirigente. Per raccomandazione, sì. Oppure non hanno... Sì. Raccomandazione, io ho vinto il concorso. Scusi, Roberto, ma in quale istituzione lei è stato assunto? Pubblica amministrazione, all'ASPI. Alla? ASPI di Agrigento, vabbè, sarà un carrozzone. Un'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sarà un carrozzone là locale, c'è cioè una vergogna, sarà totale. Perché carrozzone? Perché? Ma sarà un carrozzone. Come li chiamate voi i vostri carrozzoni? Ma dai, su. Lei è di dove? Non è di Milano? La tua ASL che è un carrozzone, scusa. Lei ha assunto l'ASL e mi sta... Lei intanto sta offendendo tutti gli impiegati. Dai, su, smettiamola, siamo seri, sì. Dai. No, siamo seri, lei sta offendendo un carrozzone. Lo sai quanti impiegati siamo? Ma non lo so. E quanti servizi che diamo noi? Sì, ma sicuramente, un sacco di servizi. Che significa il carrozzone? Perché non lo fa dire al direttore generale? Ma io lo dico anche adesso, ma che denuncia? Voi dite delle cazzate, e non ho mano io che pago le tasse. Guarda, sì. Tu veramente, io te li stimo. Ma perché non anche nano? Perché non anche nano? Il nonno. Secondo te perché gli hanno dato questa trasmissione al nonno? Ma basta con sto nonno nano. Vabbè, nonno nano? Dove sei? No, il nono nano avrebbe se si trovasse ad Agrigento, città meravigliosa, e si trovasse di fronte a dover usufruire dei servizi di questo signore della Cracola Pugliese, avrebbe il terrore. Dopodiché io dico che 39 anni fa i genitori di questo signore si andavano al cinema, era meglio, andavano al cinema la sera anziché fare quello che hanno fatto 39 anni fa, tutti sarebbero stati un po' più felici, tutti. Siamo qui e non poteva mancare questa sera il professore, avvocato, principe di Filettino, avvocato Carlo Taormina, buonasera. Buonasera a voi. Come va? Ho visto che l'inizio della trasmissione è piuttosto convulso perché ho sentito gli ultimi due interlocutori elegantissimi nel rivolgersi a voi, insomma, a farvi complimenti per la trasmissione. Sì, sono due personaggi un po' così, professore, che dobbiamo fare? Ma che me frega a me, allora, l'attacco io come dormire? Professore? Eccomi. Scusi un attimo, ma ha sentito invece l'intervento in apertura di Harry De Luca? No. Signor Harry De Luca dice che nei confronti della TAV è legittimo sabotare, fare atti di violenza, eccetera, eccetera. Signor Harry De Luca, lei che dice? Ma io dico che la violenza non sta bene da nessuna parte, sì. Persino Caselli, che insomma non è un suo amico, insomma, non è un mio amico, precisamente un mio amico, comunque è una persona che ogni tanto dice qualcosa di buono, ogni tanto ha stigmatizzato la situazione, so, effettivamente sì. Quel ritrovamento dei... non si capisce se ci sono materiali esplodenti, per la verità, perché sì. Si parla di stature per tagliare materiali esplodenti, di materiali esplodenti di cui ha parlato il comandante provinciale dei carabinieri non ho trovato. Scusi, ma lei li difenderebbe, avvocato, in OTAV oppure no? Chiunque. Io difendo tutti, guardi, non sono tutti. purché siano criminali, certo, tutti. Certo che per esempio questa cosa dei romanisti che hanno assaltato il pullman di Verona, oggi Tosi ha detto che è una vergogna. Lei che è romanista dica qualcosa, signor Taormina. Tosi dice a Verona non sarebbe mai successo. Taormi, eccomi, avvocato, dove sta? Che fine aveva fatto? Vi siete persi, io stavo qui. No, dico, ha visto questa cosa del pullman del Verona preso d'assalto dai tifosi della Roma? Sì, ho visto. Tosi ha detto che a Verona non sarebbe mai successo. Sì, ma Tosi, insomma, non è che brilla per le sue speculazioni. Speculazioni. Diciamo così. Se l'è presa un po' con i romani, sì, se l'è presa. Insomma, no, niente di... Comunque, insomma, è un bruttissimo episodio. Purtroppo non è il primo che coinvolge la squadra del mio cuore, ma insomma... Vabbè, avvocato, io voglio capire una cosa da lei, ma è vero che lei ha parlato degli amici di Berlusconi, delle persone che stanno intorno a Berlusconi, che hanno approvato la legge Severino, di cui si parla molto, come una banda di fessi? No, guardi, quella è stata un'esagerazione della giornalista Beatrice... Borromeo. Ma quella ha confermato tutto. Ho detto qualcosa, ha confermato, ma in maniera molto laconica, se lei vede, conoscendo la persona che è molto, diciamo, disinvolta nel rispondere. No, io ho parlato di incompetenza, di negligenza e di malafede. Queste sono le tre cose che ho detto. Vabbè, poi le sarà scappato pure una banda di fessi, su. No, ma lei avrà... No, non mi è scappato, onestamente devo dire, una volta tanto non mi è scappato. Lei sa che non sono scarso di complimenti, per cui... e sono sincero quando do le mie risposte. Questa volta è stata veramente una... Diciamo che ha colto bene il senso delle mie parole, ecco. Insomma, le pare possibile adesso che tutti questi del PDL che hanno approvato, in, come dire, anche esaltandola per certi aspetti, non tutti ovviamente, la legge Severino, adesso siano i primi a dire che è incostituzionale, che forse è incostituzionale, che bisogna fare ricorso? Sono delle marionette, questo lo possiamo dire, sono delle vere e proprie marionette, perché alcuni, altri secondo me hanno proprio fatto l'operazione, nel senso... Cioè in malafede, dice? Io penso proprio di sì, guardi, in quel momento... Ma chi, per esempio? La chi... situazione... Ma vabbè, ma sai, i concorrenti lì, i pretendenti che ritengono di avere qualche titolo e che non l'hanno, non sono pochi, sono parecchi là dentro, quindi... Cioè, secondo lei Alfano, per esempio... Scusi, a dicembre non era possibile non pensare al fatto che c'era già stata la sentenza di secondo grado, c'era già stato il passaggio degli atti alla Corte di Cassazione, si stava solo attendendo che si fissasse l'udienza. Beh, francamente, insomma, approvare quella norma significa proprio, come dire... Consegnare Berlusconi, lei dice. Beh, sì, significa proprio consegnare Berlusconi. E mi pare che la situazione, per come sta evolvendo, almeno per quelle che sono le ultime battute... Credo che vada a finire proprio così. Cioè Berlusconi non ha scampo, dice lei. Adesso si pensa a un ricorso alla Corte di Strasburgo. Guardi. Sì, ma vabbè, ma la Corte di Strasburgo è una buffonata che non serve a niente, perché mette sul banco degli imputati soltanto lo Stato e non certamente risolve il problema dal punto di vista tecnico-giuridico della decisione della Corte di Cassazione, primo. Secondo, l'unica strada per ritardare i tempi è quella della questione di legittimità costituzionale, che secondo me ci può anche essere. Secondo me la legge non è sicuramente retroattiva, sicuramente non è retroattiva. Io non ho capito perché lei non è stato assunto da Berlusconi in questo momento. Ma io sono stato già nobilmente cacciato dal Popolo della Libertà, per cui non vedo la ragione per la quale mi avrebbero dovuto chiamare. Certamente se l'avessero fatto non si sarebbero trovati in questo... Come? No, dico, hanno chiamato il professor Coppi, però nel campo del collegio. Dopo la vicenda Misseri non poteva essere altrimenti. Perché in che senso? Dopo la vicenda Misseri? Sì, perché io... Cioè non poteva essere altrimenti, in che senso, professor Taormina? Beh, sono situazioni nelle quali, diciamo, quando il malato è terminale si diciamo così, si cerca un intervento quasi divino, no? E quindi si è pensato a questa soluzione. Lei non ha grande stima al professor Coppi, diciamo. No, io ho moltissima stima. E come no? Lei dice miseria a Berlusconi, sono andato a pescare. Ma no, ma io non l'avrei accettato, scusi, perché mi porti un cadavere a 20 giorni dalla Cassazione, mi porti un cadavere, dopo che è stato distrutto per due gradi di giudizio, abbia pazienza. Era diventato un cadavere quello. Era un cadavere, non era un processo, era un cadavere. Che era? Ma che faccio è un cadavere? Ma perché questo? Come? Ma perché un cadavere? Proprio? Perché un non c'era più niente da fare, era stato massacrato il processo, massacrato dall'inizio. Intanto bastava che facesse un condono e avrebbe risolto tutto. Lo so, quello prima dell'inizio, vabbè, questa è la prima cosa, è l'arroganza di chi ritiene di poter in qualche modo superare tutti quanti gli scogli che invece non sono stati superati. Forse anche un po' di tircheria, dicono. No, la tircheria di Berlusconi no, assolutamente no, no, è soltanto l'arroganza del potere, su, tutto, niente di più e niente di meno. Vabbè, professore, dove sta andando adesso stasera? Sto andando ad una trasmissione. All'Arcigay? No. L'Arcigay ci va lei, io non ci vado all'Arcigay. Nemmeno se mi invitano. Quindi io ci vado volentieri. Scusi, non è andato a Gay cosa, a Gay Village a Roma? Venga con no, me. Io no. Venga no, con no, me guardi, una sera a Gay Village. Guardi, io questa sera no, guardi, ci vado da solo perché io non ho nessun interesse a. Ma guardi che è un ambiente tranquillissimo, di... un ambiente e lei si vede che di quelle tendenze, di quelle che può fare. Io non ci vado. Vabbè. Invece stasera vado da Aldo Biscardi, vede che ha ripreso il processo. Vabbè, quello è un classico. E quindi è un classico, simpatico. È un classico. Però scusi un attimo, Dormina, io invece la invito ufficialmente al Gay Village. E vabbè, io ufficialmente le dico che non ci vengo. Ma andiamo insieme a Gay Village una serata. Sì, eppure. E qualcuno le metterà una mano sul sedere, vabbè, che e se ne faccia una ragione. Ormai è tutto sì. Tutto degradato. Perché degradato? Non è che Gay Village a Roma è un ambiente degradato, scusi. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Vabbè, scusi. Ma è l'ambiente di maiali, infatti. No, Il Gay Village a Roma si può dire, guardi, fino a che non esce la legge si potrà dire, poi troveremo il modo di aggirarla. Beh, scusi attimo, professore, allora, secondo lei andrebbe cancellato il Gay Village a Roma? Non andrebbe fatto? Sono cose veramente incivili quelle, dal punto di vista proprio. No, non capisco, anche sul piano della rivendicazione di diritti o altro, di cui nessuno discute. Ma perché uno non può fare il Gay Village? Non può fare il Gay Village? Ma perché deve fare il Gay Village? Che titolo deve fare il Gay Village? Per quale ragione? Deve esporre questo ludibrio continuo della propria, immagine del personale. Ma non è che vanno lì col pisello di fuori o con le tette di fuori? Ma quello non è niente. Sono il Gay Village, è un posto dove si ritrova la comunità omosessuale romana d'estate. A me fanno schifo, guardi, poi lei fa quello che meglio crede. Ma scusi, se fosse il sindaco di Roma, proibirebbe il Gay Village a Roma, lei? Ah, io certamente, naturalmente sarei messo immediatamente al bando, però io lo farei certamente, non vedo per quale ragione ci debbano essere queste manifestazioni che sono veramente villane senza nessun costrutto. Va bene, vado a Biscardi. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Beh, ieri sera in quel posto meraviglioso che è Bisceglie ho incontrato il mitico Savino da Bari. Grandissimo personaggio, grande personaggio. Beh, mi piace così, sì, mi è piaciuto, perché qual è il problema? Ma che faccia, mi hai anche telefonato con questo che diceva Giuseppe, io vi voglio bene. Dice delle cose terribili, diceva io a voi vi voglio bene, io gli sparerei a tutti, ma io vi voglio bene. Ma gli sparo a tutti, Giuseppe, ma io voglio bene. L'ho visto. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. Ma io a voi voglio bene. Savino da Bari ieri si è presentato da me. Beh, pelato, bassetto, asciutto, settantenne, con gli occhialini. Bel personaggio, tosto, vero? Come lo siete senti? Siete due bastardi nel senso buono, che non si non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Ma io non riuscirò mai più a tornare a casa. Cesare da Milano, buonasera. Buonasera Cucciari, buonasera Parenzo. Io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che non si può fare meno di ascoltarvi, e questo è un punto a vostro favore. Però dico, come fate voi, no, lei, perché è lei che decide, a ospitare nella vostra trasmissione un personaggio come Carlo Taormina? Perché? Che ha fatto il professor Taormina? Ah no, professore avvocato. Professore, avvocato, esimio, tutto quello che vuole. Però dico, una persona che quando aveva in mano il processo della Franzoni ha detto che lui sapeva chi era il colpevole e che lo avrebbe dichiarato. E certo. Dopodiché cosa è successo? Che quel colpevole non c'è stato, non è stato trovato fuori, non è stato, non è venuto allora, fuori. Ma Cruciani, ma per la difesa. Per la vostra credibilità. Ma no, ma non è la difesa, è che è una persona che dichiara cose che non ci sono. Vabbè, allora? E allora, per la credibilità della vostra trasmissione, dove sta? Ma lo sa quante persone? Guardi, avevamo delle prove inoppugnabili. Inoppugnabili, inoppugnabili. E questo è un cretino, è un cretino. Prove inoppugnabili avevamo. Che era stata lei, probabilmente. Era stata lei che parla ora. Adesso, se vuole la faccio parlare con il professor Taormina. Glielo dica in faccia. No, non ci voglio neanche parlare. Ma come no? Adesso lei ci parla. Dice lei per una persona no, del genere. Allora prova ribrezzo. Benissimo. Adesso gli fa. Adesso glielo no, dica in faccia. Ma non ci voglio parlare. Ma glielo dica in faccia. Ma glielo dico. Ma non è il problema. Lo dico qua alla radio. L'avranno sentito centinaia di migliaia di persone. Che problema c'è? No, ma glielo deve dire in faccia. Glielo deve dire. Ma perché non è perché esiste deve che avere uno dichiara coraggio, delle cose che non sono vere? Perché deve avere il coraggio di dire. Deve avere io glielo dico, ha dichiarato una cosa che non esisteva. Deve dire dov'è questo colpevole? Che è un criminale? Deve dire che è un criminale? No, un criminale, ha detto che dichiara delle cose che non esistono. E che dunque non va più invitato alle trasmissioni? No, non è che non va più invitato alle trasmissioni. Io, se fossi lei, e giustamente lei dice, lei non è me, io non lo inviterei, perché deve esserci un'etica anche per chi fa quella professione. Vabbè Cesare, resti lì. Giovanni D'Ascoli, buonasera. Ho visto che lei vorrebbe andare, anzi vorrebbe accompagnare il professor Taormina al Gay Pride, al Gay Village, non so. Vengo io. Vabbè, i maiali io di solito me li mangio, i maiali. Perché quelli che stanno al Gay Village sono maiali? Come li definisce lei? Ma lei è un pazzo, cioè lei è un malato di mente. Pazzo? Ma lei è un malato di mente. Io pazzo! E lei è? Ma lei è un malato di mente, Giovanni, ma si faccia curare. Si faccia curare. Io me li mangio quelli lì. Imbecille, si faccia curare. Si faccia curare. Ma lei è un imbecille, si faccia curare, si vergogna, si faccia curare. Ce l'ha presente quei personaggi che partecipano a queste manifestazioni? Sì. Ce l'ha presente lei? Io ce l'ho presentissimi, sì, perché li conosco, allora, conosco molte persone. Io vengo con lei, lo accompagno. E che voglio fa? Vedere se. No, a guardarli. I maiali, vengo a guardarli. Parenzo, di qualcosa a questo signore. Ma come Parenzo? Giovanni D'Ascoli. Ascoli. Sì, abbiamo capito, Giovanni. Vengo con lei, mi puoi invitare? Sì, la invito, un attimo solo, senta Parenzo. Vedi qual è il problema? Che quando tu apri i tombini, escono questi Giovanni qua. Lei è un comunista, e quindi con i comunisti io... Quando apri i tombini, sì. Quando apri anche a Roma, no? Quando piove tanto. Stia zitto, Giovanni, stia zitto. Quando stia zitto, apri che già i tombini, detto troppo. C'è tutto quel blocco, quella melma che viene fuori. Eccola qua, questa melma che la vedete, no? Radioascoltatori, questa melma che viene fuori. Quando i tombini, quando piove tanto, no? tutto lo schifo viene fuori. Eccolo qua, Giovanni. Ecco la Giovanni, melma, devo dire la verità ecco che lei è una vergogna, lei. Mi chiama, io vengo con lei a Roma, adesso sta a Milano, quando viene a Roma io lo accompagno per vedere i maiali. Mamma, e ride pure Giovanni, ride i maiali, ride. Ma che ride? Ma che se ride? Ma fanno schifo. E questa è Taormina? Lascia perdere Taormina, io vengo con lei. l'accompagno, mi chiami, io vengo. Vabbè, voglio capito. Vedere il suo comportamento. Lei si perde Parenzo che non arriva nemmeno al tavolo, quindi non è una persona normale, quindi la si perde Parenzo. Parenzo nemmeno al tavolo, se lo metti in piedi non arriva al tavolo, quindi non lo prendiamo in considerazione. Cioè, è pure razzista sull'altezza, lei ce l'ha tutte. Ma qual è razzista? Non arriva al tavolo, come fa a parlare? Ma le hanno aperto. Senti l'odore, stia zitto. Cruciani, io rimango in attesa che lei mi chiami. Ma io non la inviterò mai al Gay Village. Lei è malato, si deve fare. Allora lei è razzista. Si deve andare a far curare, che è la cosa più importante. Ma io voglio venire con lei. No, a curare ci va lei. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Les yeux tout bouffis à l'affût du moindre trafic. Les yeux tout bouffis debout sur le lit. J'épie la musique, le cri de la bête qui pique. J'épie la musique typique aux moustiques. Marco da Pisa, buonasera Marco. Sì, buonasera. Dica. Senta, no, volevo dire in merito all'elezione dei 4 senatori. Sì. È veramente scandaloso, insomma, che questo Presidente della Repubblica continui imperterrito nella sua, diciamo, pazzia ad affondare l'Italia in questo modo. Beh, adesso affondare l'Italia, non è che nominando 4 senatori a vita affondi l'Italia, Marco. No. Beh, gli errori vengono uno dopo l'altro. Uno degli errori è stato quello di nominare Monti, no? E abbiamo visto Monti che fine ha fatto della sua politica e la sua economia. Quella poi di andare a bombardare la Libia è stato uno dei suoi atteggiamenti. Vabbè. Quello di salvare Berlusconi altrettanto. Voglio dire, in un momento ma salvare Berlusconi quando? Dov'è che ha salvato Berlusconi? Scusi. Come? Dov'è che ha salvato Berlusconi? Scusi, novembre 2011. Berlusconi era sott'acqua, affogato, gli hanno ridato ossigeno col governo Monti. Ho capito, ma non è però che... non c'era bisogno di sentenze. Ma non è che Napolitano ha salvato Berlusconi, scusi, era un po' grossa questa qua, no? Cioè, il Presidente della Repubblica prima di tutto dà la parola agli elettori, quindi in quel caso lì sarebbe dovuto andare alle elezioni. Vabbè. Poi, quindi lei non sa cosa sarebbe successo, noi quell'errore ce lo porteremo avanti ancora per un secolo. Va bene Marco, grazie. Secolo. Enrico da Padova, buonasera. Sì, io Cruciani mi stupisco di lei perché doveva ufficializzare la coglionaggine di Parenzo, perché non è possibile che Pannella quando distribuisca i profilattici sia un eroe, quando Bonanno lo fa invece un razzista che perseguita i neri. Quindi io questa veramente non gliela perdono. Però da questo punto di vista Enrico non ha tutti i torti. Tu siete quando... due no, perché certo poi Parenzo questo. dimentica che quella melma che evocava prima di quel signore, va bene, è generata proprio da questi comportamenti che non mandano un messaggio di civiltà. C'è una differenza sostanziale, non c'è differenza, perché lei deve stare al fatto che il fatto è distribuire profilattici, l'interpretazione del fatto non sta a lei. Dunque, quel leghista Bonanno distribuisce profilattici agli immigrati perché è un razzista, dicendo che gli immigrati non devono distribuiva profilattici per fare una battaglia contro di prevenzione e contro le dieci. Distribuendolo agli immigrati la prevenzione non si fa. La prevenzione con le malattie come si può fare ai bianchi? Quella della Lega è un atto razzista. Lei è un retore, lei sta dicendo fuffa, lei sta dicendo solo cazzate, non si rende conto che il profilattico va bene per il bianco e per il nero, sta girando il discorso, ha detto una cazzata. Ma se lo fossero messi anche i suoi genitori, probabilmente non saremmo qui a discutere. Però adesso ragionandoci bene, effettivamente, se uno distribuisce i preservativi, effettivamente... Lei comunque se lo mette in testa pure, perché tanto è uguale, perché per rispetto a quello che ha detto, se lo mette in testa... Però, scusa, se uno ci pensa bene, al di là di Buonanno, perché lo fa Buonanno e tutti pensiamo alla cazzata, però... No, lo fa perché lo fa con gli immigrati. Vabbè, ma la distribuzione del preservativo di per sé non è una cosa negativa, no? No, certo, e farlo come dovrebbe essere fatto nelle scuole, come prevenzione per l'educazione alla sessualità, questo avrebbe un senso. E no, vabbè, niente. Come lo fa Bonanno in polemica dicendo che i migranti fanno figli e che facendo figli rubano i posti agli italiani, a casa mia questo si chiama razzismo. Questo signore che chiama dalla mia città, si mettesse il profilattico in testa, farebbe un favore all'umanità, perché non ha capito il senso di quello che ha detto Bonanno, o come si chiama, perché quello che ha detto Bonanno è chiaramente una cosa razzista, chiaramente. Parenzo, ma lo sai chi hanno cacciato dalla sua parrocchia? Chi? Beh, lo hanno praticamente defenestrato, lo hanno emarginato, lo hanno limitato. Uno che tu attacchi sempre, uno che tu ogni volta... Il tuo amico Don? No, il mio amico Don Giorgio De Capitani. Buonasera, Don Giorgio. Buonasera. Come va? Come va? A tutti voi. Parroco di Rovagnate, che è successo, De Capitani? Ancora per poco sono qui a Monte. L'hanno mandata via? Sono stato, come direbbe Renzi, rottamato. Ah, l'hanno rottamata alla fine, troppi insulti a Berlusconi, diciamo la verità. No, beh, no, non parliamo di Berlusconi perché? Mese di maggio mi è arrivata una lettera della Congregazione del Clero del Vaticano, sì, che è arrivata alla Curia, che me l'ha consegnato, di togliere tutti gli articoli su Berlusconi dal mio sito. Questo secondo la Curia? Sì, chissà perché appena su quelle su Berlusconi. Vabbè, tutti in generale, mica... No, tutti. C'è solo quelli su Berlusconi? Quelli appena su Berlusconi. Vabbè, ma quello perché lei se la pigliava soprattutto con Berlusconi. No, non lo so il motivo. Ha detto che creiamo odio, allora... Beh, lei ne ha detto di tutti i colori su Berlusconi. Ha detto delle cose terribili. Ha detto delle cose pazzesche. Per essere un prete, diciamo. Si è augurato un ictus a Berlusconi, l'ha chiamato quel porco di Berlusconi che deve andare all'inferno, la Lega gli occhi ce li ha nel culo, eccetera, eccetera. Cambiamo discorso. Don Giorgio, però lei ne ha detto, lei si assume la responsabilità di quello che ha detto. Io sono al suo fianco, a me piacciono le persone dirette, le persone genuine, le persone che parlano in maniera così spontanea, senza fronzoli, senza infingimenti. Però lei non è che può rinnegare quello che ha detto e quello che ha scritto, o no? Su che cosa? Su Berlusconi e sulla Lega. Lasciamo perdere Berlusconi. Ma ha visto... Guardiamo altre cose, perché io sono stato qui defenestrato non per Berlusconi. E per chi, scusi? E per una concezione diversa dalla Chiesa, dai. Cioè? Qui ci sono un po' come una contrapposizione tra la Chiesa di Papa Francesco e la Chiesa, sì, della nostra diocesi milanese. Per cui, portando avanti questo discorso, da anni porto avanti quello che adesso sta dicendo Papa Francesco, praticamente sono venuto in urto con la Chiesa condotta da Angelo Scola. Quindi... Scusi, Don Giorgio. Che ne hai sparate grosse, scusa, signor Don... Don Giorgio, anche là si è andato un po' oltre, no? O no? Ma no, ho contestato il metodo, i criteri, le motivazioni della sua nomina, tutto qui. Poi a me non interessa che sia Cirillino o no, mi interessa che effettivamente sta creando un regime in questa diocesi per cui anche i preti si lamentano e vengono... Non vabbè, maestro, queste sono cose vostre, Lo so, però dico questo è il motivo per cui... Però Don Giorgio, lei alla fine è stato defenestrato anche e soprattutto perché ha scritto su vari personaggi delle cose terrificanti. Ma non è sui personaggi, è perché ho contestato la Chiesa. La Chiesa che adesso Papa Francesco a me sembra che porta avanti in un modo diverso. Ma lei si è mai innamorato, Don Giorgio? Come? Si è mai innamorato di una donna? E cosa c'entra? No, ma è una domanda. Mi sono innamorato di una che si chiama la Chiesa, la Chiesa di Cristo. Ma lei ha mai avuto una tentazione? La tentazione certe volte di fuggire da questa chiesa. Ma no, con una donna, dicono a me. Ma cosa c'entra questo? Ma no, ma come cosa c'entra? Stiamo parlando di cose serie. Queste sono cose serissime, Don Giorgio. No, vabbè, ma qui il problema è adesso pongo le cose veramente in un modo serio, cioè qui io sto giocando la mia vita su una questione di fede, su una questione di credere in un altro mondo, in un'altra situazione, di chiesa. Ma perché lei non si toglie? Poi tutto il resto non conta mica niente. Perché lei non si toglie la tonaca? Perché, scusi una roba, io quando ero sesto a un superiore che mi ha chiesto: tu perché non esci dalla chiesa? Io ho risposto secco: ma perché non esce lei? E vabbè, lei io dire... lo dirò anche la stessa cosa a Cardinal Scola se mi facesse la stessa domanda: perché non esce perché lei? Perché non esce lei? E vabbè. Quello poi fa l'elenco di tutte le cose che lei ha detto negli ultimi anni sui temi più disparati e dice: caro Don Giorgio, va benissimo, però Ma scusi, lei prima mi ha detto che lei mi ammira proprio perché ma parlo sì chiaro. D'accordo, però allora, ma quanti, adesso quanti preti parlano chiaro? Vabbè, c'è stato Don Gallo, ma allora mi dica su Berlusconi, mi dica che ne pensa di Berlusconi, di questa sua dopo la condanna, quello che sta facendo, i ricorsi. Che cosa, io non ho neanche più tempo di pensarci, perché penso a me stesso adesso, penso alla mia comunità di monte che veramente adesso viene abbandonata a se stessa. Vabbè, ecco, adesso se ne faranno una ragione. Don Giorgio, voglio sentire secondo dalla provincia di Biella, secondo secondo dalla provincia di Biella sono io, sarò telegrafico. Telegrafico. Due cose, sì. Una sul signor De Capitani, purtroppo sono l'ultimo erede dei Conti Lavelli De Capitani. Chi è lei? In Lombardia. Del Conti Lavelli? Conti Lavelli De Capitani. Ah vabbè, e chi se ne frega. Ok, e quindi auguro a questo meraviglioso erede del nome di andare a Ballabio sotto Resegone e passare tutto il resto della sua vita. La seconda cosa invece riguarda il vostro collega, no? E al quale consiglierei l'uso del preservativo tassativo, cioè? In modo da non riprodursi, perché guardi, io ho lavorato tutta la vita, la vita con ebrei di tutto il mondo, ma non ho mai trovato una cattiveria così forte, acida e impossibile come in quella del suo collaboratore. Ma perché? Che ha detto? Scusi. No, io ho detto la verità. Conosco Levi di tutto il mondo, dal Canada agli Stati Uniti, all'Australia, di tutti. E quindi non l'ho trovato. La cattiveria insita, probabilmente, lui è vissuto nel ghetto di Padova, no? Lei sa benissimo. Ma non è vero. Ma di cosa parla? No, sto parlando di una cosa seria. La cattiveria è una cosa che deve essere... Ma perché dovrebbe essere cattiveria? Ma di quale cattiveria sta parlando, scusi? Sto parlando della cattiveria del suo collaboratore. Ma perché? Che ha fatto? Ma qual è la cattiveria? Dico semplicemente quel che penso. Dov'è la cosa c'entra la religione? No, è insita. Guardi, mi ricordo benissimo quando ero un ragazzino, 18 sì, anni. Un ragazzino. Quando ragazzino di 18 anni, ero in giardini pubblici, facevo le scuole superiori prima di entrare in università. Ho trovato, io difendevo a spada tratta Israele contro tutti gli altri. Ma cosa c'entra? Non ci interessa. Socialisti e tutti gli altri. Ho trovato un signore che aveva un braccio aperto e mi ha fatto vedere. Ma di cosa parla? Cosa aveva parlando? Segnato sul suo braccio e mi ha detto: ma che cosa dice? La ringrazio, signore. Vabbè, questo è andato. Ma Carlo per la segnatura che ha in testa. Carlo dalla provincia di Macerata. Buonasera. Sì, dica. Senta, io volevo fare riferimento all'intervista che fece a suo tempo l'avvocato Dormina, dove si vantava di aver fatto assolvere un innocente. Sì, un criminale, un politico. Scherzava, spero che si scherzasse. No, non scherzava per niente, un politico della DC che lui definiva un criminale, un grande criminale, sì. Ma se rende conto della gravità della cosa? Ma io perché giuridicamente... Perché la gravità? Scusa, ma lui è testimone che c'è un colpevole in libertà. Vabbè, lui, un colpevole in libertà che l'ha difeso e lo definisce un grande criminale. Sì, ma se chi di dovere può riaprire un'inchiesta. Ma non credo proprio che possa. È un elemento nuovo. Comunque questo, lo sai, non credo proprio, Carlo. Lo sapevi, Parenzo, che alle feste del Partito Democratico non si pagano, praticamente non si rilasciano gli scontrini e niente? Beh, questo certo, però è tutto regolare perché è una norma. Sì, è tutto regolare, però pare un po' bizzarro che sono paragonate delle onlus. Devono prendere la legge sulle onlus. Cioè, tu vai alla festa del Partito Democratico, c'è gente che incassa i soldi con le salamelle, eccetera, eccetera. No, un momento, i negozi, quelli che sono messi, che diciamo le attività commerciali all'interno non rilasciano scontrino. Questo è il punto. No, quelle della festa, cioè quelle gestite dai compagni. Ma ho capito, ma rilasciassero lo scontrino. no, ma è una roba vetusta, vecchia, passata. Quello gestito dalle compagne e dai compagni che fanno lavoro volontario. Ma che c'entra? Ma sempre lo scontrino, devono lasciare. Soldi registrati, perché non è che vi sono delle tasse. Sì, ma devono sfruttare la legge sulle ONLUS. Vabbè, ma tu come stato, tu giustifichi tutto. Ci sentiamo, chi c'è? Chi c'è? Don Giorgio, ci sentiamo, auguri. Arrivederci, a domani, 18:30. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Poi c'è quel nono nano, io non lo so, che è un mio dipendente, tra l'altro, il nono nano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei ancora a casa, Emo? Radio 24. La passione si sente.